Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio anche da parte di Giorgio De Luca in redazione e Valeria Bernardi in regia. In questa domenica senza calcio di Serie A, ma zeppa di altri sport, noi ci siamo e ci saremo fino alle 19, come sempre. Spero nella vostra compagnia. Spero non mi lasciate solo. 800 24 00 24, perché mi piacerebbe comunque chiacchierare con voi di sport, di calcio anche naturalmente, e di tutto quello cui abbiamo assistito e cui stiamo per assistere. Zeppa di altri sport, dicevo, a cominciare dalla mattina presto, quando abbiamo visto le semifinali dei mondiali di rugby con l'Australia che ha eliminato i campioni del mondo in carica del Sudafrica battendoli 11-9 in una partita molto tirata, e gli All Blacks che hanno centrato, non so se è il minimo sindacale, ditemelo voi, quello delle semifinali, battendo nettamente l'Argentina 33-10. Australia e Nuova Zelanda si troveranno di fronte in semifinale. L'altra semifinale, come sapete, sarà tutta europea tra Galles e Francia. Una domenica mattina in cui abbiamo visto confermarsi, non nascere, la stella di un supercampione. Quanto grande? Non lo so. Anche qui ditemi voi, accetto consigli e pareri. Sebastian Vettel, che un anno fa con il cuore in gola, e ve lo ricordate, ad Abu Dhabi si laureò campione del mondo per la prima volta, il più giovane campione del mondo della storia della Formula 1, oggi ha concesso il bis con questo terzo posto in Giappone. Gli mancava un punto per il titolo, è un titolo conquistato con 4 gare d'anticipo, adesso ha altri record da battere e altri record che batterà, perché come dice giustamente Briatore, con la fame e le motivazioni che ha in questo momento è un pilota imbattibile all'età che ha. Può diventare nuovo Schumacher, ve lo chiedo, potete rispondermi con le telefonate, preferisco con i messaggi 349-238-6666, con Facebook e Twitter alle nostre pagine, ai nostri contatti che sono operativi. Gara di Suzuka dunque, Jenson Button che vince sulla McLaren davanti alla rossa di Fernando Alonso, una piccola rivincita delle due grandi deluse, non solo di quest'anno ma delle ultime tre stagioni, cioè McLaren e Ferrari. Questo è un altro bel tema che andrebbe approfondito magari fuori dalla cronaca, questa crisi. Non basta la maglia che indossi, come quella bianconera della Juventus, non basta per essere subito grandi. Quando attraversi momenti di vuoto di potere, di ricambio così profondi, non basta la livrea rossa o quella d'argento per battere di nuovo tutti, e non bastano nemmeno i tanti quattrini che hanno McLaren e Ferrari, ma che anche la Juventus, per tornare immediatamente grandi. Oggi mini rivincita, per paradosso quasi nel giorno dell'incoronazione di Sebastian Vettel. Quarto è Webber sull'altra Red Bull, Webber che si era segnato giustamente a fare la seconda guida, qual è? Quinto Hamilton, sesto Michael Schumacher, settimo Massa, ottavo Perez, nono Petrov e decimo Nico Rosberg. E la classifica mondiale che dice che Sebastian Vettel è campione del mondo con 324 punti e 4 gare di anticipo sulla fine del mondiale. Resta appunto il record delle pole, a cui accennavo prima, ancora da battere, quello delle 14 in una sola stagione di Nigel Mansell, e che batterà, io sono pronto a scommettere, Sebastian Vettel ne ha già conquistate 12 su 15 Gran Premi, e il sabato, quando c'è la Formula 1, è il giorno in cui escono queste ripetitive agenzie di stampa subito dopo le prove, Vettel pole position, Vettel pole position, Vettel pole position, sempre così, fino alla noia e allo sfinimento. Mondiale dunque 324 punti con un abisso di distacco su Jenson Button 210 e su Alonso 202, quarto Webber con 194 punti. Questo è successo questa mattina, ci sono le partite di Serie B e poi parleremo anche di Serie B, perché abbiamo un ospite in scaletta molto competente non solo su questo, ma già ve lo anticipo, sul serbatoio d'oro dello sport azzurro, che è la scherma, che sta per vivere i mondiali in casa, quelli di Catania. Comunque, risultati di Serie B ancora in divenire. Dopo l'1-1 con spavento per la Samp dell'ora di pranzo, 1-1 interno con il Sassuolo che era passato in vantaggio con Marchi, poi l'autorete di Pomini al 35esimo della ripresa ad evitare la sconfitta dei blucerchiati. Il Livorno che sta banchettando sul prato dell'Albino Leffe 4-0, Empoli Varese 1-1, Grosseto Vicenza 1-1, Gubbio Nocerina 1-1, Juve Stabia 2 Ascoli 1, Modena Crotone 1-1, il Torino che sta vincendo 3-1 a Verona. Partite ancora in corso e poi vi do i finali. Le notizie calcistiche di giornata praticamente non esistono se non un furto in casa di Cavani, mentre era in Uruguay, come sapete, ha giocato e segnato con la Bolivia, ha mandato anche pensiero al suo Napoli, e intanto a Napoli gli svaligiavano la casa. E poi c'è Osvaldo, che poi sentiremo oggi in conferenza stampa con gli azzurri, si prepara al debutto probabilmente martedì sera contro l'Irlanda, e oggi ha risposto, e mi è piaciuto molto, senza trovi peli sulla lingua, con un bel sorrisetto furbo, a chi lo chi criticava la sua italianità, quelli della Lega, ma mi sa che sono più italiano io di loro, ha detto Osvaldo. Questa fesseria del problema di far giocare in azzurro giocatori che non sono nati nel nostro paese, io continuo a non digerirla. Chi è eleggibile e utile alla causa azzurra è giusto che venga convocato, e questo è il mio pensiero, magari contro tendenza. Comunque io tornerei sulla Formula 1 perché sono così curioso anche di capire da voi e dall'ospite che sta per arrivare, che è Mario Poltronieri, naturalmente, quanto grande possa diventare Sebastian Vettel. Sentiamolo allora, il neocampione del mondo, che ha concesso il back to back oggi, il bis del titolo iridato vinto un anno fa. Ebbene, sentiamolo in conferenza stampa. È fantastico riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio dell'anno e averlo raggiunto già oggi. Ci sono tantissime persone che dovrei ringraziare, dovrei ringraziarli tutti uno per uno. C'è però una persona che veramente voglio ringraziare in modo particolare, della persona con la quale passo la maggior parte del mio tempo nel corso dell'anno, ed è che per Makoski, il mio allenatore. E anche devo ringraziare anche la sua famiglia in Finlandia, è stato lui, diciamo, la persona che in nessun momento dell'anno mi ha consentito di perdere proprio, diciamo, la concentrazione, non mi ha lasciato divagarmi, per così dire. Io ho un pensiero scritto sul monitor via SMS 349-238-6666 che considero un po' troppo Ferrari-centrico, che è questo di Andrea. Vettel diventerà il più grande solo se vincerà con la Ferrari, a Senna è mancato solo quello. Alonso ci sta provando, a Schumacher è riuscito, solo la rossa ti consacra. Beh, dire che a Senna sia mancato qualcosa mi sembra una bestemmia, quindi non condivido questo pensiero, anche se la maglia della Ferrari resta comunque nell'immaginario collettivo, non solo italiano, la più prestigiosa. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, buongiorno a tutti. Allora, ti leggo un elenco. Ascari, che sai perfettamente, Ascari, Fangio, Jack Brabham, poi molto, molto dopo Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Fernando Alonso. Sono 8 piloti cui era riuscita la doppietta, cui era riuscito il back to back. A questo elenco si iscrive da oggi Sebastian Vettel. Quanto sarà grande ce lo dirà probabilmente la storia dei prossimi anni. Beh, è chiaro che la situazione e si potrà definire quando vedremo lo sviluppo delle vetture l'anno 21 e poi la preparazione della versione del 2014, che sarà un 1.6 cilindri, eccetera eccetera, quindi abbastanza diverso da queste. Mentre nel caso di Schumi c'è stata una certa continuità, se così si può dire, nella tecnologia delle vetture, per cui lui ha avuto la fortuna di avere Briatore, che lo ha guidato molto bene nella fase iniziale con la Benetton, e poi una Ferrari che aveva una squadra eccezionale non solo nel pilota, perché non dimentichiamoci sempre che si vince con la squadra, non col solo pilota. Vettel indiscutibilmente comunque è molto forte. Oggi, a mio modo di vedere, è un po' rischiato, perché se invece del pacioso Button avesse fatto quello scherzetto, l'avesse fatto a Hamilton, la corsa finiva lì per loro. Sì. Perché è vero che il regolamento, io non lo condivido molto, ma vieta di zigzagare, ma consente una deviazione. Sì. Ma se della deviazione tu metti il concorrente che vuoi superare nelle condizioni di non avere più aderenza, come ti succede se metti una ruota fuori pista, è chiaro che allora la cosa non funziona molto bene. Ma questo serve solo a dimostrare che da perfetto tedesco e da perfetto emulo di Schumi, Vettel non molla mai. No, ma certo. Ha forse ceduto un attimo quando si è reso conto che Alonso comunque era molto forte, e quindi ha detto, beh, tanto se anche arrivo terzo non succede niente, vado sul podio, ho vinto il secondo titolo, quindi lì ha dimostrato l'intelligenza, perché da come era partito voleva stravincere, poi sì. Si è reso conto che aveva degli avversari in una pista che era abbastanza favorevole alla Red Bull e con un Alonso che oggi è stato veramente eccezionale. Sì, cioè, non dimentichiamo che ha 24 anni, eh. Sì, sì, sì, senza dubbio, però insomma, il caso Schumi per me è irripetibile, raro, ecco. Insomma, se io penso ai 5 titoli di Fangio, era relativamente più facile allora, perché lì c'erano relativamente pochi avversari, relativamente poche macchine e soprattutto lui aveva sempre la macchina migliore. Io mi ricordo che quando gliel'ho detto, te l'ho forse già accennato un'altra volta, gli ho detto, ma per forza vinci perché hai la macchina migliore. No, sono loro che scelgono me perché io sono il più veloce. Che può essere, quindi, può essere una chiave di lettura. È anche vero, Mario, adesso sì, molti dicono Vettel alla Ferrari per tornare a vincere. Briatore ha detto sarebbe una sciocchezza, anche perché la Ferrari comunque ha un pilota che vale Vettel o che forse è ancora più forte di Vettel, non dimentichiamo questo, che si chiama Fernando Alonso, insomma, non è una questione in questo caso di pilota, perché la Ferrari pilota ce l'ha, è una questione di macchine, e qui possiamo tornare al discorso, Vettel è stato anche bravo e fortunato ad inserirsi in un lungo vuoto di potere, che è la crisi della Ferrari e della McLaren. Prima facevo un parallelo con la Juventus, non basta il colore della livrea per essere grandi e nemmeno il tanto denaro che Ferrari e McLaren hanno da spendere. C'è stato questo ricambio generazionale, via Ron Dennis, via Todd, cambia tutto, cambiano le macchine, cambiano i regolamenti, cambiano i piloti, ed esce prima il genio di Ross Brawn, poi comunque le idee vincenti e il mix vincente della Red Bull. Servirebbe forse una rivoluzione anche per Ferrari e McLaren. Ma diciamo comunque che la Ferrari in queste ultime gare è, grazie appunto alle eccezionali prestazioni di Alonso, è leggermente migliorata. Si tratta di vedere che cosa farà l'anno venturo. Quanto alla questione di avere Vettel in Ferrari, mi sembra sarebbe stata comunque una follia. Semmai la tentazione era di prendere uno abbastanza controllabile, abbastanza tranquillo, come appunto Button, che però ha rinnovato, con la McLaren. Perché evidentemente ha ritenuto che tutto sommato, e lì la squadra è abbastanza omogenea nella McLaren. Mi meraviglio che quest'anno Hamilton sia diventato così litigioso e così impreciso, per cui si urta spesso, non solo con povero Massa, ma anche alla fine ha delle classifiche che sono nettamente inferiori alle sue possibilità. Quindi direi che la squadra più omogenea continua a essere quella lì come prestazioni, la Red Bull. Con Hamilton che invece ha fatto perdere un po', secondo me, alla McLaren. Poi c'è il problema Massa. Sì, il problema Massa mi sembra un problema abbastanza di lunga durata nel tempo, mi sembra un problema eterno quello di Massa, no? È un pilota con ambizioni da prima guida che non è alla stoffa, insomma, parliamoci chiaro. È un problema fondamentale, perché se la Ferrari non riesce a fare una macchina nettamente superiore e quindi mettere Alonso nella condizione di poter correre con una relativa tranquillità e fiducia nel mezzo che sta guidando, deve per forza avere un secondo pilota che porti via punti agli avversari, se no uno che corre da solo contro due che sono tutte e due forti, rischia a un certo punto. Schumi non ha voluto nessuno vicino a sé, ma per il periodo in cui aveva lui una macchina eccezionale. Diceva, faccio da solo, non ho bisogno dello scudiero o dello zerbino, in quel caso, che mi porti via punti agli avversari, tanto basto e avanzo io, insomma, diceva Schumacher, con una macchina che però stradominava. Mario, io ti ringrazio, ci sentiamo alla prossima, perché il mondiale non è ancora finito. Un abbraccio, grazie a Mario Poltronieri. Io ho anche dei messaggi, l'anno prossimo la vedo bene per Jason Button, naturalmente, scrive Marco. Pochi errori, tanta guida pulita, quando gli altri sono alla frutta spunta come un missile. Un altro Marco da Siena che scrive: la Red Bull ha vinto solo quando è arrivato Vettel, con Coulthard e Webber non vinsero niente, mentre Vettel vinceva con Toro Rosso ex Minardi. Certamente Vettel è un pilota superiore, possiamo dirlo già adesso, naturalmente, rispetto a Coulthard e a Webber. Quanto sia grande lo scopriremo. Ripeto, è stato bravo e fortunato ad inserirsi in questo lunghissimo vuoto di potere di McLaren e Ferrari, al quale sinceramente non vedo attualmente una via d'uscita. Ci fermiamo, poi ne discutiamo insieme. 800 24 00 24, numero verde traffico. Le impronte digitali non indicano chi siamo veramente. Il DNA non fa capire perché siamo diversi gli uni dagli altri. Il timbro della voce non dice nulla sulla nostra identità. Perché ciò che ci rende davvero unici sono le nostre scelte. L'unicità è una questione di carattere. Nuova BMW Serie 1, l'unica del suo segmento con cambio automatico a 8 rapporti, Park Assistant ed Eco Pro Mode. Vi aspettiamo il 15 e 16 ottobre in tutte le concessionarie BMW. Strade in diretta. Sull'autosole si rimane in coda per un incidente tra Frosinone e Ferentino verso Roma. C'è un incidente anche sulla 14 Adriatica, circolazione rallentata tra Fano e Marotta verso Ancona. Trafficata poi la 7 Milano-Genova con code in uscita a Serra Valle Scrivia in direzione di Genova, trafficato anche il tratto appenninico dell'autosole con qualche rallentamento tra Calenzano e Barberino verso Bologna. È tutto, a più tardi. Promo 24. Nuova Passat Variant. Chi ha scritto la storia della Station Wagon non può che scriverne anche il futuro. Sin dalla versione Comfort Line, ricche dotazioni di serie, rilevatore elettronico della stanchezza, cerchi in lega, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e fari fendinebbia. Inoltre, approfittando del Business Pack, oltre al navigatore satellitare integrato, cruise control, Bluetooth e controllo della pressione pneumatici, si può risparmiare fino al 37%. Oggi Passat Variant 1.6 TDI Comfort Line con leasing finanziario a 280 euro al mese. TAEG 4,90%. Gamma Passat Variant da 25.000 euro in caso di ritiro usato grazie al contributo dei concessionari. Volkswagen Passat, sempre un'idea avanti. A tempo di sport. Matteo scrive: Vettel sotto pressione dimostra che senza Red Bull sarebbe uno dei tanti, forse qualcosina meglio, ma non certo uno all'altezza di Schumi o di Alonso. Non così d'accordo, perché questo a 24 anni ha vinto due volte il titolo mondiale. È vero, con una macchina vincente, è vero, in un vuoto di potere McLaren e Ferrari, però i libri di storia della Formula 1 parlano e si iscrive in questo gruppo di nove piloti che hanno fatto la storia della Formula 1. Quanto grande sarà lo scopriremo tra un po'. Intanto ho convocato un mio amico, l'anti Ibrahimovic, Mario Boni, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che mentre Ibra a 30 anni non sente più il fuoco dentro, Mario Boni è sulla via per l'ennesima partita di una carriera che non, esatto, non ha fine. Quante ne ho fatte, Carlo, ho perso anche il conto, sono qui in calzoncini corti fuori dalla palestra su un campo dove ti sto parlando. Pronto a 100, per... vero? No, in casa, giochiamo in casa Fiorenzuola contro 100 alle 18 e quindi non so che sarà la partita 1000 della mia carriera, non ho idea. 1000 mi sembra poco, secondo me il traguardo l'hai già tagliato. Ma Ibra che dice non sento più il fuoco dentro, tu come lo valuti? Eh beh, sai, sono quelle situazioni che ogni sportivo prima o poi deve fronteggiare. È capitato a tanti anche miei colleghi del basket, penso a Pittis piuttosto che a Danilo, visto che ha smise a 30 anni, quindi è una situazione che uno trova dentro, e finché a me è capitato l'opposto, continuo a trovare giovamento, trovo sempre grandi stimoli a sfidare giocatori che spesso potrebbero essere figli miei, e quindi questa è la sensazione, anche perché mi fa sentire giovane e mi tiene in forma. Senti, ma domani esce un'intervista di Kobe Bryant su Vanity Fair, che dice che cosa? No, da dire vero è già uscita e ha detto una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché ricordando il suo periodo che era in Italia, parlando appunto di questo periodo, parlava dei giocatori che gli erano rimasti più impressi, le sue parole, a parte il ricordo di Alessandro Fantozzi, diceva poi il giocatore fortissimo che mi ricordo era Mario Boni a Montecatini. Insomma, questo mi ha fatto godere particolarmente. Fatto godere. E tu giocavi contro suo papà, non contro Io giocavo contro Joe Bryant, i derby, poi puoi immaginarti i derby Pistoia contro Montecatini, perché ricordiamo che Bryant, la famiglia Bryant, ha vissuto tra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Sì, sì. E quindi sono cresciuti con la lingua italiana, ecco, dopodiché. Sì. Ma tu hai qualche ricordo di Kobe da bambino? Ma io mi ricordo bene quando facevamo un camp su Acutigliano colline tosco-emiliane, c'era la famiglia Bryant, e mi ricordo che alla fine di questi campi, alla fine delle lezioni che facevamo, c'era Kobe che rimaneva sul campo e voleva sempre fare uno contro uno, io mi divertivo a stopparlo. E allora, capito, questi episodi, e mai avrei detto, no? Vedevo questo ragazzo che non era particolarmente alto, se si trascura i riccioli, la folta capigliatura, poi queste braccia lunghe, questa capacità di palleggio che era incredibile, però non, cioè, non puoi mai pensare che sarebbe diventato un giorno il giocatore più forte. E tu lo stoppavi, mondo. Naturalmente. E tu lo stoppavi. Sì, senti, ma questa idea di Sabatini che lo voleva alla Virtus, non abbiamo mai parlato io e te. Tu come la vedevi? A me, ti dico la verità, una sveltina non piace, l'amichevole non piace. Sì, anche a me. Cioè, fosse stata una, non ti dico una storia d'amore, ma quantomeno qualcosa di più lungo nel tempo, 2 mesi vanno bene, allora sì. A quel punto tutti ci avremmo guadagnato, così meno, insomma. Anzi, sì, sono d'accordo. Cioè, se prendi un giocatore, se fosse venuto Kobe o anche qualche altro giocatore in Italia per disputare una stagione, almeno 10 partite, dico io, o perlomeno un pezzo importante, sarei stato contento. Ma un amichevole è proprio un sapore che non sa nulla. Poi noi italiani l'amichevole sappiamo che non ci interessa proprio niente. Quindi era bello, io sarei stato contento, perché per il movimento, per il pubblico, e poi anche perché automaticamente la Virtus sarebbe stata una squadra fortissima. Però se ci sono anche poi altre valutazioni, questo lockout poteva essere una risorsa incredibile, lo è stato per Milano perché ha preso Danilo Gallinari, però sappiamo che Kobe Bryant avrebbe avuto un altro effetto, ecco, sulla gente e sul movimento. L'amichevole non ci attizza, caro Mario Moni, non ci garba. Ma se dico che Milano oggi come oggi a roster è più forte di Siena con Gallinari, naturalmente, tu cosa dici? Sì, sono d'accordo con te, come roster Milano è più forte, poi si sa che quando uno entra in campo ci sono altre situazioni da valutare, sì. Siena è tanti anni che gioca insieme, ha una capacità di interpretare il gioco, ha un giocatore come Stonruk che anche se fa zero può essere determinante, anche senza giocare bene, e sa vincere Siena, quindi è sempre la squadra da guardare con grande rispetto, anche se come roster indubbiamente Milano ha fatto una squadra super. E se invece ti dico, per chiudere prima di lasciarti andare a giocare, che il Napoli oggi è la squadra più forte d'Italia, tu che cosa dici? Dico che secondo me anche secondo me è la squadra più forte, perché la squadra più forte perché interpreta benissimo il modulo di Mazzarri, corrono tutti come delle iene, come delle lepri, e invece una squadra come l'Inter, che è forte, o come il Milan, comincia a pagare, a sentire gli effetti dell'età. Purtroppo non ci siamo svegliati primi, e poi anche bisogna prendere la considerazione che non si può sempre vincere, bisogna sapere anche perdere. Mario, in bocca al lupo, un abbraccio. A voi, ciao a tutti. Ciao, grazie a Mario Boni. Allora, io vi minaccio, se non vi svegliate cominciate a chiamarmi e a farmi compagnia qui al telefono, insomma, quantomeno, se non di persona, io vado a casa. 800 24 00 24 è il numero verde messaggi, 349 238 6666. Abbiamo tempo fino alle 19, è vero, abbiamo un sacco di ospiti con cui parlare, con cui chiacchierare, un sacco di ospiti da interrogare, però a me interesserebbe soprattutto sentire le vostre voci sul tema che più vi aggrada, perché poi mi rimproverate e mi dite: ma perché non parli di questo o di quello? Allora è il momento opportuno per farlo, fatelo voi se non lo faccio io. Andrea prova a chiarire il suo pensiero su Vettel. Non intendo che Senna fosse magnifico, intendo che purtroppo in Formula 1 solo la Ferrari ti rende leggendario. Più dei punti, titoli, vittorie. Andrea, non sono d'accordo, perché Senna secondo me è leggendario, cioè, è un pilota, è una leggenda dello sport, anzi per i miei gusti e per, insomma, il mio vissuto e anche la mia età anagrafica, il pilota che più ho amato personalmente in assoluto, anche se non ha mai vestito la maglia della Ferrari. 800 24 00 24, vi aspetto qui dopo il GR. Tempo di sport. Non so se è la minaccia ad avervi intimorito. 800 24 00 24, ma tanti ascoltatori, cioè, ho minacciato di andarvene via, di appendere la cuffia se non mi venite a fare compagnia al telefono. Ebbene, molti ascoltatori hanno chiamato e stanno chiamando. 800 24 00 24, ripeto il numero verde, e vi do i finali di Serie B. Eravamo rimasti in sospeso e c'è un risultato in particolare che è cambiato, quello di Empoli con il Varese che ha vinto 2-1 all'ultimo istante. Il Livorno invece ha vinto 4-0 sul campo della Bino Leffe, Grosseto Vicenza 1-1, Gubbio batte Nocerino 2-1, Juve Stabia batte Ascoli 2-1, Modena Crotone 1-1, il Torino ha vinto 3-1 a Verona e continua a comandare la classifica con 23 punti davanti al Padova che ne ha 20, Sassuolo 17, Brescia Pescara 16, Livorno 15, Sampdoria, Grosseto e Bari 14, poi tutte le altre. Vorrei cominciare a parlare con gli ascoltatori, a partire da Luca da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Salve, piacere. Senta, volevo così da lei avere un parere riguardo il calcio italiano come situazione generica, in particolare per la nazionale e per i risultati che potrebbero venire più o meno positivi a prescindere dalla qualità dell'allenatore. Sì. Credo che il livello sia bassissimo e i vivai sono inesistenti. Secondo me. Mentre all'estero lei dice se la passano meglio. No, non se la passano meglio, ma sicuramente come vivai sono più seguiti, sono più organizzati, si seguono più i giovani italiani e vengono comunque valorizzati quei ragazzi che dimostrano sul campo di essere all'altezza della situazione. Quindi lei non è d'accordo con Deki Stankovic che dice presto l'Italia sarà una delle tre nazionali più forti del mondo? La vedo dura, sinceramente, perché comunque non ci sono giocatori di un certo spessore come nel 2006 quando vincemmo in Germania, dove ci fu più di un giocatore di spessore, di qualità e di fantasia che poteva creare quel gol e quella situazione che ci poteva far vincere una o più partite, come con la Germania, ad esempio, no? Sì. Eccetera. Sì, sì, mancano Totti e Del Piero. In effetti questa nazionale è qualitativamente inferiore rispetto a quella. Questa nazionale, ed è un argomento che, insomma, che vorrei trattare anche con voi, mi ricordo un po' la Juventus, e siamo sempre lì. Cioè una squadra che certamente sta costruendo un gruppo, sta costruendo una forza morale, se non uso una parola eccessiva, forse sì. Però a calcio si vince, nello sport si vince con i campioni. Alla nazionale italiana mancano le superstar, così come mancano alla Juventus. Juventus che vedo come un gruppo in crescita, un gruppo forte, eccetera. Però arriveranno i momenti difficili anche dal punto di vista fisico, e quando arrivano i momenti difficili hai bisogno del campione, che sto vedendo in questo momento un'immagine di Ibrahimovic, ad esempio, un giocatore come Ibrahimovic che ti tira fuori dalle secche, dal nulla, no? Ibrahimovic che tra l'altro oggi tornerà domani a Milanello, è squalificato per la nazionale svedese e dunque tornerà alle amorevoli cure di Milanello per preparare la partita con il Palermo, che per il Milan sarà delicatissima. Così come, dicono le notizie, tornerà anche Julio Cesar, che è infortunato e che lascerà il suo Brasile. Comunque dicevo, la nazionale italiana mi sembra una squadra, un bel gruppo, abbastanza giovane, molto ben guidato. Prandelli sta facendo un lavoro eccellente, secondo me, però se il giocatore che deve farti fare il salto di qualità è ancora Antonio Cassano, con tutti i limiti che ha, alla fine Cassano è diventato una riserva di lusso del Milan, lasciate stare questo periodo di emergenza assoluta, nel quale è diventato un giocatore imprescindibile per Allegri, però Cassano, la dimensione di Cassano in un grande club è ormai quello del panchinaro di lusso, se lo accetta e se è accettato dai compagni di squadra, cosa che è abbastanza difficile anche al Milan in questo momento. Ebbene, se la tua superstar è questa, non vedo grandi qualità. Giuseppe Rossi è un eccellente giocatore, però non mi sembra ancora quel supercampione in grado di farti fare il salto di qualità. Ho visto balenare un ascoltatore, esiste o non esiste sul monitor? Non esiste perché stiamo provando a chiamarlo, 800 24 00 24 numero verde. Io invece ho un sacco di messaggi che arrivano addirittura dall'estero, ad esempio questo di Stefano che scrive da Cracovia. Al Napoli manca la continuità per essere davvero grande, dovrebbe puntare tutto sul campionato, la Champions al momento è un lusso. Sono abbastanza d'accordo con Stefano, il Napoli si è trovato in un girone impossibile, sta cercando di capitalizzare questo girone impossibile, magari ci riesce, non dovesse riuscire, se dovesse scivolare al terzo posto in Europa League, quella sarebbe la vera disdetta. Il Napoli quest'anno ha davvero la possibilità di correre fino in fondo, a mio parere, per lo scudetto. In questo momento è la più forte squadra italiana, complici i problemi di Milan e Inter. Afro da Bologna, buongiorno. Buongiorno, Dica. Niente, volevo parlare di Formula 1, visto che oggi c'è stato un bel Gran Premio che ha meritato, ha fatto un bello spettacolo, quindi era giusto parlarne, secondo me. Sì. Niente, Vettel ha vinto il mondiale con merito, perché comunque ha fatto dei risultati che... Ma quanto può diventare grande Vettel, secondo lei? Secondo me Vettel può diventare molto grande, dipende purtroppo anche dai suoi avversari, perché... Se Alonso e Hamilton, che sono le punte di diamante, i suoi avversari migliori, rimangono con delle vetture non competitive fin da inizio stagione, per lui è facile vincere, in quanto il suo compagno di squadra non è all'altezza, purtroppo, quindi rimane semplice. Abbiamo visto una stagione, questa di quest'anno, come quella del 2002, quando Schumacher vinse il mondiale in con sei gare di anticipo. Lei sa meglio di me che senza una grande macchina non vinci il mondiale, anche se sei un pilota straordinario, come Alonso continua a pensare sia il miglior pilota in Formula 1 oggi, Vettel compreso, oggi. Però senza una grande macchina il mondiale non lo vinci, quindi mi sembra una banalità dire vince Vettel perché è la macchina più forte. Sì, è vero, però è stato molto bravo lui, considerata l'età che ha, perché due mondiali di fila non li vinci per caso e nemmeno quando hai la macchina migliore. Sempre sulla Formula 1, credo, Aniello da Bergamo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Sì, penso anche io che comunque Vettel quest'anno è maturato tantissimo rispetto anche all'anno scorso, che commetteva errori come litigare con Webber per qualche piazzamento. Sì, ma anche perché è stupido avere due piloti che corrono per il mondiale. Sì, certamente, però anche con quest'anno Webber ha accusato tantissimo il colpo da Vettel. Aveva la possibilità di lottare, di avere una macchina pari con Vettel, ma ha dimostrato comunque i suoi limiti di essere un buon secondo pilota. Ma sì, ma certo, ma anche Massa può essere un buon secondo pilota se accetta quel ruolo, perché insomma io credo che in una squadra ideale ci debba essere una prima guida, che è quello che ha la macchina, che ha il compito di vincere, e ci deve essere una seconda guida che ha compito di fare gioco di squadra, che quest'anno è stato così, è stato tolto dal ghetto del non detto, no? Come sapete, l'anno scorso c'era questa grande bugia del fatto che i piloti non potessero fare gioco di squadra. Secondo me invece è perfettamente corretto e legittimo che ci sia un primo pilota che corre per vincere il mondiale nei grandi team e un secondo pilota il cui compito è quello di rubare punti alla concorrenza, perché se hai due... L'anno scorso la Red Bull ha rischiato di perdere il mondiale con una macchina nettamente più forte, sarebbe stata una bestemmia sportiva a mio parere. Marco, provincia di Pisa, poi ci fermiamo per il traffico. Buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Senti, volevo parlare anch'io della nazionale, perché penso che si possa emulare un po' l'idea di calcio del Barcellona, o forse sto parlando, sto pretendendo troppo, però con tre ragazzini veloci lì davanti. In nazionale? Sì. Sì, in nazionale. Ho capito, ora, però il gioco può essere anche quello del Barcellona, se però non hai mi sembra un po' difficile, no? Cioè, mi sembra che questa nazionale, che ha questa nazionale, abbia tutto tranne che un paio di fuori classe veri, quindi però, non sto dicendo che manca poco, Ecco, davanti il Barcellona ha Messi, poi se vuoi mettere Pedro. Sì, li voglio mettere anche Xavi e Iniesta a centrocampo, naturalmente, anche qui sto banalizzando moltissimo. Pirlo e Marchisio, però non voglio dire che siano allo stesso livello, ma abbiamo un buon centrocampo anche con De Rossi, con Trista. Ma esiste secondo te un giocatore italiano, un attaccante italiano che... Balotelli. Anche secondo me. Esiste un attaccante italiano che ha il talento della superstar, non lo è in questo momento, magari non lo diventerà mai perché ha problemi di crescita, mettiamola così, però il giocatore con maggiore talento tra gli attaccanti italiani o italianizzabili è Mario Balotelli. Quindi io penso che se ci fosse un ideale processo di crescita, anche qui sto usando dei giri di parole pazzeschi, Mario Balotelli potrebbe essere il giocatore che può far fare il salto di qualità alla nazionale italiana. Non so se possa bastare uno, non credo, però questa nazionale è povera di talento, quel talento che Balotelli possiede. 800 24 00 24, numero verde, traffico. Schneider Electric, lo specialista globale per la gestione dell'energia. vi presenta Strade in diretta. Trafficata la A4 Torino-Milano, si è formata una coda di circa un chilometro in uscita a Biandrate verso Milano. Trafficata poi la A12 Genova-Livorno con rallentamenti da Recco a Genova-Nervi in direzione del capoluogo Ligure, traffico intenso verso la capitale sulla diramazione Roma-Sud, code fra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Infine sulla A15 della Cisa, code per lavori tra il bivio per la A12 e Aulla verso Parma. È tutto, a più tardi. A tempo di sport. Già che stiamo parlando di nazionale, vi faccio sentire un paio di voci di oggi, che sono quelle di Nocerino, tanto per cominciare, e poi ne sentiamo un'altra che già ho anticipato, che è secondo me più interessante. Nocerino. Questo era sicuramente un mio obiettivo, cercare di conquistarmi la fiducia del mister e della squadra. Infatti sono molto felice, anche perché, come ha detto lei, sono entrato in punta di piedi e piano piano mi sto ritagliando un ottimo spazio. Sono contento e spero di continuare così. Questo era Nocerino. Adesso voglio farvi sentire Osvaldo, che ha parlato molto chiaramente, intervenuto molto chiaramente con un bel sorrisetto furbo. Osvaldo, sulle cui qualità mi sto anche ricredendo, perché è giusto fare anche retromarcia. Non mi sembrava sto gran giocatore, ancora non ne sono convinto. Non penso sia, per tornare al discorso di prima, il giocatore che può far fare il salto di qualità all'Italia. Non sarà mai, io credo, una superstar. Probabilmente con la crescita sta diventando un ottimo attaccante. Ebbene, gli è stato chiesto di questa solita... mi vengono in mente solo parolacce, di questa solita... aspettate che ne cerco una che vada bene per radio a quest'ora. Quella solita fesseria, la sciocchezza del... mai non è italiano, ma cosa fanno i nazionali non italiani, tirate fuori dal... cose tirate fuori dai soliti ambienti politici. Osvaldo ha risposto. Da quel che so, critica anche i giocatori che sono italiani, ma del sud, quindi... penso... mi sa che sono più italiano io di lui, no? Amen. Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko. Ciao, ciao a tutti voi. Ti unisci all'applauso? Sì, sì, grande. Una standing ovation per questa risposta. Anche perché io inviterei questi signori che ogni tanto escono fuori con queste enormi fesserie a farsi un giro nella macchina del tempo, andare fuori, magari fare un salto a Toronto nel 2006 quando l'Italia vinse il mondiale. Sì. E andare a vedere i figli degli italiani, come li chiamano loro, gli oriundi, non so come li vogliono chiamare, quanto hanno festeggiato quel mondiale, quanto sentivano loro quella nazionale. Certamente, ma poi io continuo a pensarli in maniera un po' moderna, nel senso che chi ha le carte in regola per poter essere chiamato in azzurro ha le carte in regola, che non sono false, ma sono documenti originali, autentici, come i nostri che abbiamo in tasca, ed è funzionale alle esigenze azzurre, non chiamarlo sarebbe una fesseria, non chiamarlo sarebbe una sciocchezza. Esattamente, no? Esattamente. Senti Mirko, oggi scrivi di questo sulla Gazzetta dello Sport, approfondisci questo tema del blocco, da Buffon a Pirlo il blocco funziona, c'è il blocco Juventus in nazionale, ha un senso quindi parlare di blocchi nel 2011, può funzionare ancora? Sì, diciamo che non è necessario, non è obbligatorio avere un blocco per poter ottenere i grandi risultati, però sicuramente può aiutare molto, soprattutto un movimento che negli ultimi tempi era entrato un attimino in crisi e che quindi aveva anche grosse difficoltà a riemergere, diciamo così, a livello internazionale. Quindi se entra in una nazionale un blocco di una squadra che sta funzionando in questo momento, può sicuramente aiutare molto di più il lavoro del CT, che come sappiamo insomma ha a disposizione la squadra pochissime volte all'anno. Certo, il blocco ha senso se è un blocco credibile. Certo, se è un blocco credibile, ma io ti giro il discorso, non è che questa nazionale somiglia molto alla Juventus, cioè è un ottimo gruppo, lo dicevo prima, Prandelli sta facendo uno splendido lavoro col materiale che ha a disposizione, però non ha la Juventus nel campionato italiano, l'Italia a livello mondiale non ha le qualità per essere al top. Ma guarda, io sono d'accordo con te, credo che a questa nazionale manchi poco per arrivare almeno al top in Europa, visto che quello è il primo traguardo che, che ci aspetta, non dico magari a livello della Spagna, ma poco sotto. Manca poco, cosa manca? Manca un bel centravanti. Manca, perché il fuoriclasse e mezzo ce l'abbiamo, e finché il fisico lo conserva, Pirlo è un giocatore straordinario. Ma Chiesa sta crescendo moltissimo, la mentalità che prenderà da questa squadra fa in modo che i giocatori che prima magari non erano considerati ad altissimo livello stiano crescendo. Penso a Montolivo. De Rossi è un giocatore di livello internazionale, e quando funziona il centrocampo magari la difesa funziona meglio. Ci manca un grande centravanti, potenzialmente ce l'abbiamo, si chiama Balotelli. Però insomma, quindi sei d'accordo con me? Sì, sono d'accordo con te, ti sentivo prima. Sono d'accordo anche sul fatto che Osvaldo non sarà l'uomo della svolta di questa nazionale, anche se è un giocatore che ha caratteristiche buone per questo tipo di nuova filosofia portata da Prandelli. Però lì davanti manca il fuoriclasse, forse ne mancano anche due, insomma. Anche perché se stiamo lì a dipendere ancora da Cassano, secondo me Cassano ormai in valore assoluto può essere, avesse la testa giusta e non ce l'ha, un cambio che fa la differenza in un grande club, che sia il Milan, l'Inter, Real Madrid, cioè quello che entra, ormai le grandi chance le ha bruciate. Potrebbe inventarsi, ci avesse la testa, un ruolo di questo tipo, non l'avrà mai, e dunque continuerà ad andare in giro a piantare casino qua e là. Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo con te. Cassano è questo, ormai di più non potrà dare, e non è abbastanza per fare il salto di qualità. Quindi l'Italia deve sperare nel salto di qualità di Balotelli, che almeno dalla sua ha il fatto che ha 20 anni, e quindi magari ci si può sperare, che venga fuori qualche altra cosa buona lì davanti, perché in effetti noi manchiamo là davanti. Siamo competitivi a centrocampo, perché è una squadra che può schierare nel reparto De Rossi e Pirlo, non può non essere competitiva, perché sono due grandi giocatori. Ti ripeto, quando funziona bene il centrocampo anche la difesa ne trae beneficio, quindi anche una buona difesa può diventare un'ottima difesa, però per vincere devi fare i gol, serve il fuoriclasse, e là davanti noi ancora dobbiamo migliorare parecchio. Noi ancora dobbiamo trovarlo. Mirko, ti ringrazio. Grazie a voi, ciao. Grazie a Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Un allenatore giovane, molto bravo, del Siena, che è tra l'altro la squadra che ha fatto giocare più italiani. Leggo sempre questa statistica sulla Gazzetta dello Sport fin qui. Beppe Sannino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mister, se io la saluto con un bel fancool, lei si offende? O spiega... No, anzi, mi fa piacere. Nella vita ogni tanto, in modo anche scherzoso... Perché dobbiamo spiegarla però, Sì, beh, certo. Lei usava questa, scritto all'inglese, quindi fun call. Divertimento. Lei usava questa t-shirt. Sì, una metafora, poi in fondo c'è una metafora, perché poi ho preso spunto da questo per dire, ragazzi, dato che ero arrivato a Varese nell'ottobre di 3 anni fa, di 4 anni fa, e ero ultimo in classifica, ho visto i ragazzi che erano giù con la testa tra le mani, ho detto, beh ragazzi, questa maglietta mi dà spunto per dire fanculo un po' a tutti e a tutto, e andiamo avanti, insomma. Mi è piaciuta moltissimo, come mi è piaciuto ad esempio una delle partite che mi è rimasta impressa in questa stagione è quella che lei ha giocato, che il suo Siena ha giocato a Roma, all'Olimpico. Contro la Roma avete giocato una partita straordinaria che secondo me meritavate di vincere. Io però, andare contro corrente, sono stato felice di aver fatto quel punto, perché sfido chiunque se prima della gara qualcuno poteva scommettere solo un centesimo su un risultato positivo del Siena, perciò l'ingordigia non è una cosa che fa parte del mio essere. Sono stato felice di aver portato via un punto da Roma, ma sicuramente soddisfatto, perché giocavamo sotto gli occhi dei riflettori quella sera, e tutta Italia ha potuto vedere un Siena sicuramente battagliero, ma che comunque poi dopo la gara ho subito voluto approfondire la cosa dicendo che è una ronda che fa la primavera, insomma. Ci vogliono tante partite per poter essere una squadra che può dire la sua in questo campionato. Sicuro. Quella sera le fece male Osvaldo, lei come lo vede in azzurro? Innanzitutto, è d'accordo sull'impiego di un giocatore non nato in Italia in nazionale, e come lo vede qualitativamente in questa nazionale? Beh, io penso che prima di Osvaldo ci sono stati anche altri giocatori, no? Certo. Sono passati in nazionale. È un compito che spetta ad altri. Io posso dire la mia su quello che vedo nel giocatore. Osvaldo è un giocatore che in Spagna ha fatto benissimo, era passato già all'Italia, con alterne fortune, è migliorato, è maturato, e se prendere l'ha chiamato ci ha visto quello che è, fa a caso suo. Sì. Però è un grosso giocatore per la Roma. Io tra i tanti giovani allenatori, secondo me ce ne sono molti di bravi, lei tra quelli, a mio parere sempre. Io non sei non... giovanissimo, ho 54 anni. Sì, sì, sì, sì, però. Non esistono fenomeni, esistono quelli che hanno la fortuna di essere scelti da società che li proteggono, a mio parere. Io anche su questo ho sempre detto che non è colpa, è merito di un allenatore stato scelto da una società, poi anche con un percorso breve, no? Però poi dopo è il campo quello che decide se uno è bravo o meno, ma questo penso che faccia parte del nostro lavoro, un po' di tutti. A volte c'è un percorso molto più lungo rispetto ad altri, però con questo non bisogna mica dire che è colpa dell'allenatore che va ad allenare, insomma. Visto che io la ricordo anche da giocatore, la ricordo da giocatore di grande temperamento, tra l'altro, le voglio fare ancora una domanda su Ibrahimovic e la noia. Quando ha sentito le parole di Ibra, lei cosa ha pensato? Ibrahimovic è la noia. Non mi diverto più. Io penso che sia stato anche sincero, l'ho apprezzato, non ci ho letto tante dietrologie, vuole andare via, al mal di pancia, eccetera. Credo che per essere un giocatore il fuoco dentro lo devi avere, devi essere un po' ossessionato dal lavoro che fai, anche per essere un allenatore. Io penso che il fuoco sia il fuoco, la fame, la voglia di mettere sempre in discussione sia la molla, la spinta per fare, no? Se lui è arrivato a questo punto, perché vuol dire che qualcosa si è bloccato dentro di sé, però penso che sia anche una cosa naturale per un grande campione quale Ibrahimovic, forse un momento di scoramento, un momento di, però penso che poi dopo, come io ho sempre usato dire, da passare nottata il giorno dopo, poi dopo avessi già un'altra voglia, un'altra testa. Io quando mi ho preso a fare allenamento il giorno dopo, finisco l'allenamento e vado a casa con mille dubbi per quello che ho visto sul campo. Sì. E dopo una nottata dico oggi è il giorno giusto per fare bene. Mister, io la ringrazio di essere stato con noi. Grazie, io ringrazio voi, in bocca al lupo. In bocca al lupo a Beppe Sannino. Ci fermiamo per questa breve pausa. Dopo torniamo. Ho visto che c'erano diversi ascoltatori collegati con noi. Naturalmente li ripiglieremo per tempo. Oggi ci divertiamo. Happening assoluto. Mi ha appena raggiunto il mio amico Fabrizio Ferrari, avvocato e procuratore calcistico. Ciao Fabrizio. Buonasera a tutti. A te. C'è chi invece su Twitter travisa le mie parole. Prima parla di Napoli favorito e poi dice che la Juve non ce la farà perché è senza superstar. È il Napoli. Attenzione, io ho detto che il Napoli oggi è la squadra più forte d'Italia. Dal punto di vista dell'organico, il Napoli non vale il Milan e l'Inter, che mi sembrano due squadre. L'Inter bollita, il Milan in fase di cottura. No? Sì, un po'. Non benissimo in questa fase. Magari sto esagerando, però insomma mi sembrano due squadre a fine ciclo e in questa fine ciclo si inserisce, per tornare alla Formula 1, la Brown di due anni fa. No, tra McLaren e Ferrari in ricostruzione, il Napoli può giocarsi le sue chance. È un'evoluzione della Giorgio De Luca napoletano mi fa le corna. La regia di ma credo che l'Inter sia un po' in una fase di confusione dovuta ai cambi di allenatore che non sono riusciti per nulla. Vari tentativi di cambi di modulo che non hanno portato a nulla se non a confusione totale all'interno della squadra, qualche acquisto secondo me non azzeccatissimo, soprattutto per le posizioni in campo, e quindi insomma non va benissimo, ma è un organico talmente forte che nei primi tre ci arriva uguale. Sì, poi il Napoli è un'evoluzione della specie Juventus, perché è squadra già, cioè è un gruppo solido con equilibri precisi, che è una squadra in missione e che comunque ha tre giocatori che sono quelli che conoscete, che non sono magari ancora superstar internazionali, ma sono sulla via. Sono veramente forti, con un grandissimo allenatore che dà veramente il 110%, un gruppo pazzesco, fatto veramente di ragazzi unitissimi che stanno facendo veramente molto bene. E poi soprattutto, come dicevi tu, questi due o tre giocatori veramente di grandissima forza, perché comunque l'innesto anche di Hiller a centrocampo ha cambiato veramente la forza del centrocampo, che era un punto debole del Napoli, soprattutto dal punto di vista fisico. Quindi grande squadra il Napoli. Torniamo a parlare con gli ascoltatori. 800240024, bravissima a rispondere al richiamo. Tanti hanno chiamato anche oggi, anche se non c'era Serie A. Gian Matteo da Palermo e poi Claudio da Trento. Gian Matteo, buongiorno. Pronto? Linee con Palermo problematiche, collegamenti con l'isola problematici. Proviamo col Trentino. Claudio, buongiorno. Sì, salve. Mi sente? Sì, che la sento. Ecco, io volevo condivido quello che ha detto lei, Milan è in cottura. Chi è milanista da tanti anni come me ha visto che è una stagione che è cominciata male e finisce peggio. Ho paura che non raggiungeremo nessun traguardo, né in Coppa dei Campioni né in campionato. Soffriamo ancora sulla sinistra perché abbiamo problemi con il terzino. Antonini non è un terzino da Milan, Bonera nemmeno, Taivu vedremo cosa succede, e in mezzo ci manca Pirlo, che è andato a rinforzare una rivale e vorrà far vedere che non è raccolto come si pensava a Milano. E davanti la crisi che colpisce Ibrahimovic è solamente perché ha capito che la società non ha investito 500.000 euro in Nocerino, sì. Ha capito che non è annata. Allora come fa lui quando soffre qualcosa? Preferisce andare via, probabilmente. Sì, ho paura, sì, che sia così. Sì, la lettura non è sbagliata, è anche condivisibile. Non so se questa esternazione di Ibrahimovic sia stata determinata dalla voglia di andare via, quindi sia un anticipo del mal di pancia che gli verrà. C'è già chi ha detto, che adesso interrogo Fabrizio Ferrari sull'argomento, sentivo già dire: pronto lo scambio con Balotelli a fine stagione, Ibra al City e Balotelli a Milano. Il Milan è una squadra che ha bisogno di un ricambio profondo, sta cercando di cambiare pelle continuando a vincere, che è la via più complicata. L'anno scorso è riuscita, quest'anno però vedo comunque un centrocampo in difficoltà anche anagrafica, ed è inutile sottolinearlo, no? Beh, hanno messo una pezza prendendo Van Bommel l'anno scorso, che è un grandissimo giocatore però di un'età piuttosto avanzata. Hanno Rino Gattuso, hanno Ambrosini, hanno giocatori molto esperti ma che sicuramente su cui non puoi fare affidamento per i prossimi 3-4 anni. Quindi secondo me, come dicevi tu, sono in via di cambiamento. Il Milan è una squadra un po' complicata per fare acquisti e rinnovare, non è una squadra che tendenzialmente fa proprio questi rinnovi incredibili, sì. Quindi considera anche che hanno Seedorf, che è un altro giocatore, un altro senatore, hanno giocatori, lo stesso Nesta, hanno Zambrotta, hanno giocatori, molti giocatori sopra i 32-33 anni, quindi faranno un po' fatica fisicamente, però sono dei grandi giocatori che nel campionato possono dare veramente tantissimo. Certo. Secondo me in Champions League forse a livello fisico possono cedere un po'. Io non penso che il Milan sia una squadra da corsa in Champions League. Vero tutto quanto hai detto, poi ci si mette anche De Benedetti a far saltare i piani estivi, ma questa è un'altra storia. Saluto e ringrazio Massimo Gobbi invece, Jolly del Parma. Ciao Massimo, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Io prima dicevo, e sono stato bacchettato da qualche ascoltatore, in questo momento il Napoli è la squadra più forte d'Italia. Voi ci giocherete contro sabato. Tu sei d'accordo con me oppure no? Ma sicuramente, cioè, probabilmente la più in forma. È una delle più forti sicuramente, quindi sicuramente sarà durissima per noi sabato. Nel segno di Giovinco questo avvio del Parma, Massimo, quanto è forte Giovinco? Forte è forte, ma forte quanto? Ma penso che abbia grandissimi margini ancora di miglioramento, perché è molto forte ma è giovane e potrà migliorare ancora tanto. Quest'anno secondo me sarà l'anno in cui farà grandissime cose. Ancora meglio di quello che ha fatto l'anno scorso sicuramente. Sì, stiamo parlando di qualità che serve per la nazionale. In molti cominciano a dire: ma Giovinco potrebbe andare bene. Non so sinceramente se possa diventare un giocatore stabilmente da grande squadra. Non riesco a capire quale possa essere la grandezza di questo giocatore. Ma io penso che lui possa diventare un giocatore che possa stare stabilmente in una grande squadra, perché ha delle grandissime qualità e penso che anche in nazionale abbia qualità che forse ha solo lui. E poi penso anche alle parole che ha detto il mister Prandelli adesso in ritiro, sì, che ha detto, cioè detto da lui, ecco, magari detto da me conta meno, però detto dall'altro della nazionale, ecco, magari conta un po' di più. Sicuramente Sebastian può diventare un grandissimo giocatore. Sì, e poi non sfancula gratis i giornalisti come fa qualcun altro. Fabrizio Ferrari, dicevo, non sfancula gratis i giornalisti come fa Cassano, no? Siamo molto più educati. Come vedi il Parma, Fabrizio Ferrari? Parma lo vedo una squadra discreta. sì. non mi dispiace, e che ovviamente deve puntare tutto sulla qualità di Giovinco davanti, perché è in un momento veramente molto positivo. Mi dicono anche che a allenamento fa delle cose incredibili, quindi non sono assolutamente sorpreso da quello che sta mostrando in questo momento. Massimo Gobbi, che lo vedi tutti i giorni. Sì, beh, io lo vedo tutti i giorni, quindi posso dirlo che, come ho detto prima, lui ha grandissime qualità, lo dimostra sempre in allenamento e per fortuna riesce a dimostrarlo anche in campo, perché ha iniziato veramente bene l'anno. Spero che continui, perché per noi è fondamentale la sua qualità. È una risorsa importante. Massimo, tu hai più o meno l'età di Ibrahimovic, no? Sì. Più o meno l'età, anche tu come sei nato a ottobre. Quando hai sentito le sue parole, cosa hai pensato? Come vivi tu personalmente la tua professione? Io continuo a pensare che, insomma, per fare calciatore, al di là di tutta la demagogia che gira, che non condivido, devi sentire la passione vera, cioè devi essere un po' ossessionato da quello che fai, mi sbaglio? Sì, beh, penso che la passione sia fondamentale, perché noi siamo fortunati e facciamo un lavoro che ci piace, che abbiamo sognato fin da bambini, per quindi. Però ecco, la passione è quella che ti muove tutti i giorni, è quella che ti fa venire la voglia tutti i giorni di andare al campo e di cercare di migliorarti e di dare al massimo sempre, e di dare il massimo sempre in allenamento. Io penso che Ibra, magari visto il periodo, le cose magari non vanno molto bene col Milan, penso alla nazionale, che probabilmente non è una nazionale, cioè non è una nazionale di primo ordine, quindi magari non potrà mai vincere niente con la nazionale. Quindi penso sia un momento, ecco, però penso che gli stimoli lui debba trovare, nel senso che un giocatore come lui, un fuoriclasse come lui, che non ha mai vinto la Champions League, per come la vedo io, è impensabile. Quindi penso che debba magari pensare a quello e magari ritrovarli, ecco. Massimo, ti ringrazio, buon lavoro, bocca al lupo, buona domenica. Grazie, buonasera, crepi il lupo. La domenica di riposo andiamo a rompere le scatole noi, ai giocatori. Sì, ma se Ibrahimovic è stanco, allora quello di Barcellona che ha vinto tutto varie volte, cosa fanno? È stanco, Fabri, lui dice, cioè, sentivo il fuoco dentro, non è andare a timbrare il cartellino, andare ad allenarsi. Secondo me è stato onesto, a me Ibrahimovic è un personaggio che piace, poi gli ascoltatori si imbizzarriscono perché dico questo, però è un personaggio che mi piace, insomma. Ma sarà scorbutico, capisco, sarà maleducato qualche volta, sarà così, sopra le righe, però ha fatto un ragionamento che porta a riflettere, non a buttarla in ma con tutto quello che guadagna, chi se ne frega, cioè, no, non è questo il discorso. Se fai il giocatore, cioè Inzaghi è uno che è ossessionato dalla sua professione, cioè che vive per quello. Se cominci a pensare che, insomma, ti interessa anche dell'altro come è legittimo, dici vabbè, adesso cominciamo a pensare magari al dopo. Ha fatto un ragionamento che condivido, che mi piace. Ivano, provincia di Bergamo, poi Stefano da Firenze. Buongiorno Ivano. Buongiorno Genta. Dica. Saluti anche ai suoi ospiti. Niente, io volevo fare un piccolo appunto su ciò che ha detto sulla nazionale. Nel senso che mi piace l'analisi tecnico-teorica che ha fatto sulla nazionale, e quindi Prandelli sta facendo un ottimo lavoro, la nazionale sta giocando bene, si sta creando un bel gruppo. Però io volevo solo ricordarle due cose. Lei sicuramente, io ho 41 anni e lei sicuramente ha più o meno la mia età, più o meno, e i due mondiali che abbiamo vinto li ha visti entrambi come me. Allora, 82 l'uomo di maggior classe era Antonioni. Antonioni giocava alla Fiorentina, lei mi potrà dire tempi diversi. No, non le dico tempi diversi, le dico che Bruno Conti in quel periodo era forse per quel mondiale, per quel mese, il giocatore più forte del mondo. No? Era un giocatore di grande talento, esploso tardi, forse non ha avuto una carriera a quel livello lunghissima, ma era un giocatore mostruoso in quel momento. C'era Paolo Rossi che la buttava dentro e lo sa meglio di me, c'era una difesa che era nettamente la più forte di questo pianeta, quindi no? Mi sbaglio? Mi scusi se la disturbo. No, quello no, che voglio dire è che l'abbiamo scoperto dopo, e stessa cosa ai mondiali del 2006, nel senso anche lì chi era l'uomo di maggior classe in teoria? Era Totti, Del Piero non era titolare, Totti ha fatto un mondiale, ce lo ricordiamo, insomma, chi è chicca, io ho giocato 20 anni a livello dilettantistico, Totti ha fatto un mondiale abbastanza vergognoso, no? Sì. Del Piero ha giocato, ha fatto un buon mondiale, certo. Ha giocato, sì, no, diciamo no, non un buon mondiale. Del Piero ha giochicchiato, è entrato in semifinale, ha fatto quello che ha fatto. Però in realtà a livello qualitativo non avevamo dei fenomeni. Quello che voglio dire io, che lei giustamente ha fatto un'analisi corretta, però secondo me poi alla fine i mondiali non li vinci con gli uomini che in teoria in partenza sono i più bravi, che ti fanno fare la differenza, lo vinci con altre qualità. Sì. E questo è il mio modo di pensare, perché io ho giocato 20 anni, sì, sì. E so che nel calcio ci sono un miliardo di fattori che possono influire, e non ultimo la qualità, ma non è il, secondo me quello che fa. Io credo invece che in un torneo breve il giocatore che ti risolve la partita, è successo con Totti, che non ha fatto un buon mondiale, le ha detto vergognoso, io dico un mondiale sottotono. Però si tratta sempre di cacciare dentro, non è così facile quel rigore con l'Australia a tempo scaduto. Quindi, che poi è un episodio, però per vincere i mondiali ci vuole la scintilla del campione. E comunque Totti era in molti assist, insomma, dei gol che abbiamo fatto. Quindi proprio vergognoso no, e poi veniva da un infortunio talmente grave... Sì. Che era complicato per lui fare un mondiale di altissimo livello. Rieccoci, Fabrizio Ferrari è qui con me, Stefano da Firenze al telefono. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Come sento male? Mi dispiace. Da dove parla? Pronto? No, facciamo fatica, proviamo a richiamare Stefano da Firenze, sembrava in una grotta di Al-Qaeda. Linee telefoniche disturbate. Ne parlavamo a microfoni spenti, io e Fabrizio Ferrari ci siamo trovati d'accordo, insomma, sulla analisi della nazionale italiana. Pepito Rossi può essere la nostra superstar, eh? No? Pepito Rossi sicuramente è un giocatore di grande talento, poi disciplinato. Fabrizio, scusa, ma il fatto che nell'Italia ci sia il blocco Juventus in questo momento è indice di forza o di debolezza? Ma secondo me indice un po' di quello che è la strategia degli acquisti della Juventus, che ha voluto riprendere un blocco italiano molto importante, per cui inevitabilmente i giocatori di talento maggiore ce l'ha la Juventus, italiani, non c'è niente da fare, ci sono pochi altri che possono competere, però obiettivamente non abbiamo una qualità incredibile. Non siamo certo la Spagna, ecco. Abbiamo dei giocatori forti, abbiamo Pepito, che secondo me è un grandissimo giocatore, che però, come dicevamo prima, la Spagna di Pepito ne ha 3-4 almeno, sì. Se non 5, sì. Quindi forse siamo ancora inferiori. Quindi Deki Stankovic, che ha detto tra poco l'Italia sarà sul podio del mondo, sarà tra le prime tre nazionali del mondo, lo ha detto perché per farci un piacere, perché lui ci vuole bene, molto sì, carino. Sì, assolutamente. Stefano, vediamo se ci riusciamo a parlare. Mi sente, gente? Sì, adesso la sento, dica. Ecco, no, io volevo tanto complimenti ancora una volta alla trasmissione. Grazie. Sei molto attento, però non so se ha notato che negli ultimi 10 partite ufficiali Alessio Cerci ha fatto 9 reti. Io non lo dico come tifoso viola, però al Franchi, dopo Antognoni, Baggio, Edmundo, abbiamo questo ragazzo che si ha conquistato. Senta, Edmundo lo lasci lì, lo lasci dove è. Era grandissimo. Era grandissimo. Edmundo, Trapattoni di Edmundo disse, calcolava i rimpalli sui difensori. Sì. L'ha detto Trapattoni. Comunque, peccato che al suo confronto Cassano fosse un chirichetto. Certo, questo sono d'accordo. Comunque, questo Cerci, se mantiene la continuità, è un po' il Robben de Noartri, però se continua... è un giocatore sì, che sì. Lo metterei a livello di decisione decisivo come Balotelli. Anche a me piace molto Cerci, salta l'uomo al tiro, all'inserimento, è un giocatore, diciamo, è un giocatore alla, adesso ne spariamo grossissime, tanto oggi non c'è la Serie A, è un giocatore alla Lampard. Negli inserimenti. No, è più attaccante. Veramente molta forza fisica, mi piace molto perché è un attaccante un po' atipico, se vogliamo, per l'Italia, nel senso che è un giocatore che parte all'esterno, si inserisce, ha molta forza, corsa, velocità, quindi non è un tipico attaccante italiano, se vogliamo. Sì, comunque è un giocatore che chiaramente, cioè, in questo momento propone la sua, sì, candidatura ad una nazionale in cerca di talento, di giocatori di livello. Secondo me ci potrebbe stare. Senti, ma tornando al discorso di prima, blocco Juventus in nazionale, elemento forse di debolezza. La Juventus è una squadra che sta, insomma, che ci sta provando. Secondo me è una squadra che sta costruendo un gruppo, eccetera, eccetera, ancora poco talento vero per poter puntare sul serio al titolo italiano, ad esempio. Beh, certamente rispetto all'Inter, al Milan, nel discorso che facevamo prima, ha meno campionissimi, se vogliamo, ha tanti buoni giocatori, hanno creato un ottimo gruppo, hanno creato un gruppo omogeneo, hanno creato un gruppo con buonissimi giocatori e con molte alternative davanti. Questo non è stato male. Poi hanno dato veramente carta bianca a Conte per costruire questa squadra e gli è esploso obiettivamente Marchisio in fase realizzativa, perché adesso è un momento talmente positivo che fa gol ovunque e comunque, quindi insomma è interessante il progetto Juventus, a me piace molto, anche se secondo me per essere uno squadrone gli manca ancora qualche interprete. Sì, gli manca qualche interprete di altissimo livello. Di altissimo livello, anche se io continuo a considerare Vucinic un giocatore molto sottovalutato, secondo me è potenzialmente una vera superstar. Ecco, Vucinic io non lo cambierei sicuro. Con cioè, chi? Nel senso, Vucinic è sicuramente un punto fermo della Juventus del futuro. Vucinic, Pirlo. Assolutamente. Vucinic, Pirlo, Buffon, Chiellini, sì. Se continua a considerarlo un po' sopravvalutato nel ruolo di difensore centrale, ma questo è un altro discorso. Certo, per essere un top club europeo di strada, di erba, come dicono alla Juventus, no? Da Conte al Can devono mangiarne ancora tanto. Sì. E di soldi spenderne. Torniamo dunque, Fabrizio Ferrari, avvocato procuratore di calcio e mio amico. Ciao Fabrizio di nuovo. Allora, buonasera. Ibrahimovic va al Manchester City, come ho sentito dire, a fine stagione c'è questo scambio Ibra-Balotelli, tutto già, insomma, si sta già lavorando per questo, Mino Raiola sta già lavorando per questo. Guarda, non mi stupirei così tanto di questa possibilità, perché quando c'è una dichiarazione dei giocatori di Raiola un po' strana, qualcosa succede sempre. Quindi non saresti sorpreso? No. Anche tu sei, insomma, hai preso questa esternazione di Ibra come, ma non come un anticipo di mal di pancia. Vabbè, non ci credi, non credi al mio amico. No, ci credo, ma non c'è, so, c'è dietro sempre qualcosa. Questo mini sospettino. Dunque, Salvatore Sanzo, buongiorno, ciao Salvatore. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, senti, io approfitto di te prima che come esperto di calcio, come ex grande campione, ex grande schermitore, sulle parole di Ibrahimovic, tu ci leggi dietro un disegno oscuro o arriva un momento in cui ti interroghi? No, tutti ci interroghiamo a un certo punto, dopo 30 anni Ibrahimovic ce l'ha, quindi può darsi che si stia interrogando. Detto questo, sono d'accordo con le parole che ho appena sentito, in effetti, di Fabrizio Ferrari, sì. Esatto, in effetti quando un giocatore di Mino Raiola parla, insomma, qualche cosa ci potrebbe sempre essere, però insomma il mercato è un settore che io seguo da lontano indirettamente, per cui non conosco benissimo tutte le dinamiche. Sì, segui da vicino invece ancora la scherma, mondiali a Catania, e lì c'è un ricambio generazionale. Direi proprio di sì, anche se per i mondiali ci sono ancora Vezzali, c'è ancora Aldo Montano, c'è Taglierol che viene a Pechino, insomma ci sono ancora i vecchietti che continuano comunque a dare grande soddisfazione, soprattutto dai quali abbiamo grandi aspettative. Poi in effetti abbiamo tanti ragazzi giovani, insomma il solito sì, significa che la scherma è in grado anche di rinnovarsi, e questo penso che sia molto importante tanto per la scherma ma per lo sport italiano. Ti sentivo l'altro giorno in un'intervista dire che pensi ancora che Aldo Montano sia il migliore del mondo, confermi? Sì, io lo penso, anche se proprio stamattina leggevo un giornale dove insomma, pare che abbia dei problemi fisici, ma tecnicamente, schermisticamente Aldo Montano è sicuramente il più forte per la sua disciplina. Detto questo, poi ovviamente va sempre dimostrato, quindi starà lui dopodomani a farlo se sarà in condizioni fisiche ottimali, chiaramente. Sicuro. Veniamo alla tua nuova professione, Totò. Io ho una gran voglia di scommettere sull'esito finale della Serie B: Sampdoria prima, Torino secondo in classifica. Accidenti, vinceresti tanti soldi sulla Sampdoria prima, vista che adesso è parecchio lontano. Io ci credo. Da oggi, no, la Sampdoria è, secondo me, ha sicuramente la squadra più forte di questo campionato, anche più forte del Torino, se andiamo a prendere i giocatori 1-1. Il problema è che a mio parere ancora non si è ambientato in questo campionato, perché questo è un campionato in cui bisogna correre tanto, la Samp forse si è abituata un pochino troppo alla, alla Serie A, non sta facendo vedere quella qualità superiore rispetto, rispetto alle altre. Sta soffrendo Marassi, non poco, perché ha conquistato soltanto 5 punti dei 14 complessivi, quindi 6 punti dei 14 complessivi, quindi comunque troppo poco. Ha vinto soltanto una volta nel 6-0 con, contro il Gubbio, poi invece insomma Pioggia ha rischiato addirittura di perdere. E mi pare che, non lo so, forse Azzori stia facendo ancora fatica a trovare un po' la quadratura del cerchio. Anche oggi ha cambiato modulo, ha giocato col 4-3-1-2, dopo 45 minuti è ritornato al 4-4-2, i due giocatori che aveva inserito, Bentivoglio e Soriano, poi li ha tolti, insomma un po' una bocciatura, come dire, sta facendo forse anche lui un pochino di fatica. È chiaro che allenare la Samp in B, con tutto il rispetto, non è allenare magari altre squadre dove ci sono meno pressioni, dove gli obiettivi erano diversi, perché comunque Reggio Calabria è una piazza importante, ma l'obiettivo dello scorso anno della Regina non era vincere il campionato, era fare un buon campionato, e così Azzori ha fatto. E a Genova con la Samp è diversa, a Genova devi vincere, non puoi sbagliare. Non c'è storia. Vedevo Fabrizio Ferrari dissentire sulla Samp con l'organico più forte della Serie B. No, a livello di nomi sicuramente sì. Però se devo invece scommettere su dei giocatori adatti, come dicevo giustamente poi Sanz, al campionato, secondo me il Torino è più adatto come tipo di giocatori. Infatti Iori si è rivelato come uno dei centrocampisti più forti del campionato, perché conosce bene questo campionato ed è probabilmente in Serie B uno dei migliori centrocampisti. Lo stesso Bianchi, che fa gol adesso, ogni volta che lo metto dentro comunque la butta dentro, e hanno dei giocatori che per questo campionato, come diceva giustamente lui, sono più adatti secondo me quelli del Torino. Quelli della Samp sono sicuramente molto più forti come giocatori a livello oggettivo, però stentano un pochino ad abituarsi a questo tipo di campionato, anche se hanno secondo me Bertani, che è di un talento tale che prima o poi gli risolverà tutte le cose. Quindi vuoi dire, Salvatore, che il Torino dopo anni di tentativi ha indovinato la miscela giusta? Io penso di sì, ma soprattutto la differenza, a mio parere, in questo momento la sta facendo soprattutto l'allenatore, cioè Ventura, che ha dato un gioco, ha dato una chiarezza, insomma, a questo organico, e tutti i calciatori si sono messi a disposizione. Insomma, Bianchi non è più il titolare inamovibile, anche se è chiaramente la bandiera, ma ha accettato in alcune occasioni anche di partire dalla panchina. Lo stesso discorso vale per altri giocatori che si invece assolutamente mai volevano andare in panchina. Insomma, ha messo fuori Rosa Gasbarroni, che è tuttora un tesserato del Torino. Ecco, io penso che Ventura da questo punto di vista abbia dato un segnale forte, un'impronta molto, molto decisa alla società. E soprattutto Cairo lo ha fatto lavorare. Oggi, tra l'altro, insomma, festeggia la 100ª vittoria della sua era, della sua presidenza. Un'ultima cosa, Salvatore, mi dai una tua lettura sulla nazionale di Prandelli? Perché stiamo ballando tra il fuoco d'artificio di Stankovic, che dice tra poco sarete tra i primi tre del mondo, e invece una posizione che dice: se il blocco è quello della Juventus, la squadra che sta nascendo, se la nostra superstar è Cassano, forse siamo ancora un po' lontani dal vertice. Ma forse la verità sta nel mezzo, come sempre. Io penso che Prandelli sta lavorando bene, è una persona assolutamente per bene, che sta facendo al massimo, insomma, il suo lavoro, e direi i risultati in questo momento gli stanno dando ragione. Se devo paragonare l'Italia alle grandi nazionali, credo che siamo un pochino ancora indietro. Se Cassano sì, forse Giuseppe Rossi è quello che mi verrebbe da dire così su due piedi, o anche Balotelli, su cui puntare per le prossime manifestazioni. Però da qui a vincere, insomma, il girone dell'Italia mi sembrava abbastanza semplice, sì. Mi sembrava un test molto molto impegnativo, però insomma il calcio poi è complicato, per cui in un test semplice, ecco, sono riusciti comunque a risolverlo con in semplicità, altrettanto semplice, già. Esatto. Questo sicuramente va dato merito a Prandelli e a tutto il gruppo. E non sempre ci è riuscito storicamente di risolvere semplicemente situazioni apparentemente semplici. Grazie Salvatore, buon lavoro. Grazie a voi, altrettanto. Grazie. Presto. Grazie Salvatore. Sanzo, ci fermiamo per il traffico, poi diversi ascoltatori un po' da tutta Italia. Senti Fabrizio Ferrari, adesso ricominciamo a parlare di calcio, però prima volevo chiederti una cosa, una domanda personale, visto che siamo amici. in che rapporti sei con le tue ex fidanzate? Urca miseria. Sono bene, vado molto bene. Sono tutte sposate, quindi sono contentissime. Ti cresce il naso, no. Non possono vedere. Sono bravissimo come ex. Sei bravissimo come ex. Sono un fenomeno. Ora io saluto, volevo andare a vedere al cinema, invece l'abbiamo chiamata prima, ci faceva raccontare qualcosa. Natascia Stefanenko, buon pomeriggio Natascia, ciao. Ciao ragazzi, ma voglio dire, ma come si fa a mantenere il rapporto civile? Ma sono d'accordo con ma come si fa? Cioè, a parte chiaramente ci sono i casi quando ci sono i bambini magari in mezzo, sì. E allora ci vuole intelligenza e tanta santa pazienza. Allora il massimo che puoi raggiungere è un rapporto professionale. Esatto, è proprio. Anzi, ogni tanto devi proprio stringere i denti e non dire una parola in più per sicurezza. Sì. Però quando non ci sono i figli, ma chi se ne frega? Ma perché devo mantenere il rapporto con un ex? Ditemi un po', perché è un capitolo chiuso, ormai basta, è finita, basta, ciao. Ma nel film con chi litighi? Allora, io non litigo con nessuno perché nel film Ex Amici Come Prima sono interpreto una premier della Lituania. Sì. E quindi incontro questo uomo che mi fa molto ridere, che mi fa star bene, che è Salemme, Vincenzo Salemme, lo saluto volentieri, e lì insomma nasce una storia, noi siamo tutti e due sposati, quindi felicemente diventeremo gli ex, però insomma con tanta gioia anche. Sì, vale un po' anche nello sport, eh? Gli ex della tua squadra non possono essere tuoi amici quando vanno via, eh? Sì, a volte d'accordo? Sì. A volte anche mi dispiace, a volte abbiamo perso, non so, Sidor per esempio, che è rimasto nel cuore, che comunque è un giocatore, ma mi piace molto perché è un ragazzo davvero bravo ragazzo, grandissimo, sì. Professionista. Ma uno di grande intelligenza, è un cervello di cui ci siamo arricchiti, proprio come te, esatto, secondo me. Ma però alcuni proprio ciao, arrivederci e neanche tante grazie. Senti, ma mi racconti di quando nuotavi con lo zar Popov? Perché io ho letto anche questo. Sì, è vero, abbiamo nuotato insieme, insomma, nuotavamo in una piscina di 25 metri sperduti nelle montagne Urali, dove siamo nati tutti e due, in un posto davvero assurdo, in una città segreta che non esiste nella carta geografica, quindi è una città anche circondata, insomma, come dire, proprio controllata dai militari perché i nostri genitori lavoravano per la guerra fredda, insomma lavoravano con uranio, quindi tutti e due eravamo un po' sperduti nel mondo, proprio sì. Abbiamo vissuto in una situazione completamente surreale, però abbiamo notato insieme, lui è stato molto coraggioso in realtà di andare avanti, invece io mi sono fermata con violenza e ho studiato ingegneria metallurgica che mi è servita moltissimo nella vita. Ecco, devo dire, però anche questa è un'esperienza. Lui è un grande, bravissimo ragazzo. Ma l'hai più sentito? Ti è più capitato di sentirlo? No, ultimamente no, però perché tanto è mia madre che mi informa moltissimo perché conosce i suoi genitori, quindi a volte mi dice no, guarda, sta qua, sta là, guarda che ha partorito sua moglie, insomma so tutto. Sai tutto. Ecco, però è un bravissimo ragazzo, adesso mi sembra che sta a Mosca. Sì. Sì, tranquillo, sì. Sereno. No, però vabbè, ha fatto veramente una grandissima carriera. Ha fatto una carriera straordinaria lo zar. Io volevo chiederti un'altra cosa. Eri piccola quando c'erano Zavarov, Mikhailichenko, Aleinikov che venivano in Italia. Adesso la terra promessa è la tua. Cioè, vedi un giocatore, tra l'altro della tua squadra, dell'Inter, Eto'o, cedere alla tentazione di un mare di soldi e andare a Makhachkala. È vero, però a parte, io non lo invidio molto, perché è finito a Dagestan, è un posto un po' strano, diciamo. Cioè, anche per noi russi è un posto particolare, è vicino all'Azerbaigian, vicino alla Cecenia, insomma, è un posto non proprio molto molto sicuro. E infatti lui mi sembra che dorme a Mosca e ogni volta vola lì a Dagestan per giocare a Anji Makhachkala, una cosa che è quasi impossibile anche pronunciare. Io capisco che i soldi effettivamente fanno tanto comodità, insomma, eccetera, però non lo so se ci trae posto suo, perché secondo me dobbiamo trovare un attimo un modo per farlo tornare, perché all'Inter serve uno come Eto'o. Sì, certamente. Ma chi te l'ha fatta fare di scegliere l'Inter come squadra? Ma abbi pazienza, Natascia. Ma guarda, ma chi te l'ha fatto fare? Successo casualmente, e non solo perché mio marito è interista, anzi, di solito anche la moglie è sempre un po', va un po' contro il marito, giusto proprio sì, per un po' stuzzicarlo. Invece ho lavorato sempre con interisti, tipo mi ricordo che all'inizio ho lavorato con Paolo Rossi per Scattafascio. Cioè sì, mi ricordo bene, mi ricordo bene. Esatto. Quindi erano tutti di Zelic, tutti interisti, arrivavano i calciatori, arrivava Moratti, insomma in qualche modo non mi sono neanche accorta, ero già dentro. E adesso ormai è tardi, cioè io lo amo, insomma, la mia squadra, con tutti i difetti, i pregi, per carità. Sì, e guarda, io ho un messaggio SMS che dice: da cosa si capisce che l'Inter è peggiorata? Prima faceva girare la palla, ora fa girare le palle, scrive un ascoltatore. Sì, e fa girare tanto. con Napoli però vabbè, lasciamo perdere, perché io dopo quella non, partita... Non parlare degli arbitri, non parlare degli arbitri. Esatto, no, infatti, io non voglio neanche vedere Rocchi, anche Stallone mi sta un po' sulle scatole. Ti prego. No, lasciamo perdere. Sorvogliamo, siamo civili. Mi appello alla tua sportività da russa, ecco. Non cadere nei difetti italiani, ti prego. Ma guarda, che da tanto tutto il mondo è paese, sono più, che ne so, russa napoletana, cioè nel senso come parlo e come difendo le cose, ecco, ma anche noi siamo così, anzi, forse anche a volte peggio. Intanto è stato un piacere parlare con te, Natascia. Anche per me, e io vi invito a questo punto, per non arrabbiarsi troppo, per far due risate, andare a vedere questo film Ex Amici come prima, che siamo primi anche in classifica, siamo molto molto felici del risultato, e così fare un po' di un respiro, insomma, una bella risata. Ah, sicuro, ne abbiamo tanto bisogno. Grazie Natascia, un abbraccio. Grazie a voi, ciao. Grazie Natascia. Visto Fabrizio, ti ha presentato anche Natascia Stefanelli. Mica male. Adesso invece ti presento Emanuele da Parma e Massimiliano da Livorno. Benissimo. Non avranno le gambe di Natascia, ma sentiamo cosa hanno da dire. Emanuele, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Buongiorno, volevo condividere la mia riflessione sulla nazionale. Sì, prego. È assolutamente impensabile credere, immaginare che la nazionale potrà esprimere un gioco come quello del Barcellona. Vuoi per il fatto che la nazionale italiana non ha i fuori classe che possiede Barcellona, e soprattutto perché Barcellona è una squadra fortissima che verrà ricordata come una delle squadre più forti al mondo. Sì. Sì. Può essere paragonabile ad esempio come al Milan di Sacchi. Sì. Quindi assolutamente l'Italia deve puntare sulla forza del gruppo. La storia ci ha insegnato che i mondiali con il gruppo. Sì, usando le armi che e ha. E quindi il lavoro di Prandelli mi piace perché va in quest'ottica. Sì, sì, sì. Soprattutto va nell'ottica di convocare giocatori che sono più in forma. È un lavoro, insomma, sul convocare giocatori che sono più in forma, magari no, perché sennò così una squadra non la costruisci mai. Mi sembra che invece Prandelli abbia individuato un gruppo preciso sul quale fa innesti mirati, quindi mi sembra l'opposto. Certo. Mi sembra l'opposto, quindi credo che i giocatori. Ma d'altra parte, guardi, io sono perplesso anche su quando comincio a sentir parlare di modello Barcellona. A me, insomma, viene così. Mi viene qualche sospetto anche sulla Roma di Luis Enrique, perché non è facile quello che sta provando a fare Luis Enrique. Cioè, ho detto tante volte: provare a costruire una casa partendo dal tetto, no? Sì, non dalle fondamenta, che è un settore giovanile. Barcellona è un modello unico perché cominciano da lì, giocano tutti allo stesso modo, ha un grande vivaio, trova talenti in tutto il mondo, da Messi in giù, e quindi è un modello di quasi filosofico quello del Barcellona. Sì, sono d'accordo, tant'è che anche alla Roma stanno cercando di fare questa cosa, come dicevi tu, e stanno modificando e plasmando anche la primavera di De Rossi. E non sempre è facile fare un lavoro del genere. Secondo me si sono messi in un progetto molto importante, molto difficile, sicuramente affascinante, ma molto difficile. Sono curioso, devo dire la verità, la Roma assieme alla Lazio sono le due squadre che guardo con maggiore curiosità nel campionato. La Lazio perché ha dei giocatori che possono veramente fare la differenza e che mi hanno sempre affascinato, come Klose e Sissé e Mauri, che io adoro. un grandissimo giocatore, assolutamente non apprezzato per quanto ha dato. E poi la Roma, perché la Roma ha questo progetto di calcio che non capisco effettivamente dove in realtà può arrivare. Nemmeno io, ti dico la verità. Massimiliano da Livorno magari neanche. Buongiorno. Buonasera. Posso dire una cosa? Due. A me il modello Barcellona mi ha un po' saturato, nel senso che non si fa altro che parlare di modello Barcellona, questi sono un'alchimia impressionante. Bravo. Di talenti. Ma un po' saturato anche a me, ma un po' saturato anche a me. Tra l'altro io una delle ultime partite che ho visto, che è stata Barcellona-Milan, anche stucchevole come gioco, cioè quando non imbeccano una partita fenomenale sono stucchevoli, palleggiano tanto, però tutti si tiri in porta, cioè a me il cross e l'omone che segna di testa mi piace, cioè. È una bella immagine del calcio, la torta, poi, no. Secondo me si sottovaluta il fatto che questa nazionale di Prandelli è quella che si è qualificata, mi sembra, per prima agli europei, cioè per la più veloce, forse perché c'ha il reparto più forte nel centrocampo. Che è un inedito per la nazionale. Cioè i nazionali sono sempre stati molto forti in attacco e in difesa, con centrocampi arrabattati, perché sono Di Biagio e poi c'era Roberto Baggio in avanti e Maldini in difesa. Tutto il rispetto per Gigi Di Biagio. Ma lei dice non abbiamo sempre avuto qualche problema di chimica al centrocampo, mentre l'attaccante che la buttava dentro, che aveva il colpo, e il difensore che comunque, insomma, la scuola difensiva italiana ancora oggi è tra le prime, no? Lei dice, mentre questa l'inversione di tendenza vera di questa nazionale, al di là di sto modello Barcellona che ha un po' stufato tutti quanti, è nel fatto che riusciamo a giocare in quella maniera perché abbiamo un centrocampo di livello, questo è il senso. Siamo con le scarse, perché palleggiamo un pochettino. Una volta si vinceva solo con le grandi squadre, perché cioè, il centrocampo correva e basta, non c'era qualità, c'erano i grandi difensori che difendevano, rilanciavano. Sì, si buttava la palla in avanti e si vedeva che succedeva. Qualche Gigi Riva, qualche Boninsegna, qualche Vetta, qualche Rossi in avanti, che insomma erano nomi di un certo livello, la mettevano dentro. Sì, questa è la chiave. Non abbiamo questi grandi attaccanti, e però Bonucci in difesa, che insomma un po' ti fa tremare le gambe. Un grande attaccante però serve per una nazionale che vuole essere al top nel mondo, e io in questo momento di grandi attaccanti, torno a ripetere, di scuola italiana convocabile in nazionale non ne vedo, e continuo a sperare insieme a Fabrizio Ferrari nell'esplosione definitiva di Mario Balotelli, che mi sembra quello con maggiore talento, con il colpo vero da fuori classe, che magari rimarrà sempre in embrione dati i noti limiti caratteriali. Physique du roll. Sì, vero physique du roll. Da esperto di calcio francese poi ti chiedo anche del Paris Saint-Germain, sono curioso di capire cosa sta combinando Leonardo. Dunque torniamo e parliamo un po' di calcio internazionale, caro Fabrizio Ferrari. Tra poco ti chiedo di Leonardo e del suo Paris Saint-Germain, ma anche di questo oggetto misterioso rosso-nero che si chiama Taiwo, arrivato con grandi credenziali ma non mi sembra ancora nelle grazie di Allegri. C'è anche dalla Spagna Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Cosa fai in questa domenica senza calcio lì giù a Madrid? Riposo. Ma beato te, ma capitasse a me una benedetta domenica. Esatto, ne approfittiamo appieno. Stai guardando la Coppa d'Africa? No, la Coppa d'Africa no, cioè, ho visto qualificazione, ieri disastro. Tu mi hai detto di Taiwo, non hai parlato, basta pensare, lui è nigeriano, la Nigeria per la prima volta dal 96 non parteciperà alla Coppa d'Africa perché sono stati eliminati. Perché c'è Taiwo, che la fossa. No, però dico, lui è una delle colonne di questa nazionale, quindi tanto forte anche la nazionale nigeriana non deve essere, il povero Taiwo. No, ha fatto, per me è sempre stata una grande promessa, ha fatto bene al Marsiglia, però non l'ho mai visto come un fenomeno. È chiaro che nel ruolo di terzino sinistro in generale nel mondo non c'è granché. Basta pensare che la Spagna usa Arbeloa perché non ha ancora trovato un sostituto di Capdevila, che già non mi sembrava un fenomeno. Quindi insomma forse è il ruolo meno coperto a livello mondiale in questo momento. Sì, Fabrizio. Sono d'accordo, ha perfettamente ragione, non è facile trovare dei terzini sinistri di altissimo livello, però secondo me qualcosa meglio di Taiwo si poteva trovare. Sì, tu l'hai visto tante volte il campionato francese, anche lì non era esattamente un crack. Lui è stato al centro di tante discussioni sui giornali perché non rinnovava il contratto col Marsiglia, ma dopo un po' anche il Marsiglia se ne è fatto una ragione, sì, non l'ha fatto giocare e sono andati bene lo stesso, ecco, non è che sono morti poverini. Filippo, si è qualificata la Libia? Sì, la Libia si è qualificata, abbastanza clamoroso devo dire, e insomma una notizia che a me fa piacere, a questo allenatore brasiliano, un allenatore esperto, uno che ha vinto l'Under 20, un mondiale Under 20, ha vinto campionati statali con varie squadre a Rio e dintorni, è una persona esperta, però da febbraio scorso praticamente non vive più in Libia e non lo pagano da mesi, lui gli hanno detto ah sei un pazzo perché torni, lui ha sempre voluto tornare e ha continuato ad allenare più o meno per corrispondenza, non sapeva neanche che giocatori aveva, se qualcuno era morto, se qualcuno era in guerra o no, e alla fine mettendo su la squadra più o meno è arrivato in Coppa d'Africa e questo per me alla fine è un grande successo sportivo, lasciando poi dopo da parte tutte le questioni, sì, politiche, però fa piacere, insomma, ecco, questo mi sembra un buon dato, insomma, sì, fa onore a lui, a questo Marcos Paquetá di soprannome, che ha lavorato come poteva e comunque ha portato la Libia, che non è proprio uno squadrone, alla Coppa d'Africa. Sì, una gran bella storia, caro Filippo. Senti, tu riposi, ma Mourinho cosa fa? Mourinho pure. Uscite Mourinho insieme a mangiare il gelato? Per me la cosa più bella è questa che ha fatto negli ultimi giorni, che è venuta fuori, che ha pagato l'iscrizione a 10 compagni del figlio nella squadra dove gioca il figlio, che è una scuola calcio molto famosa di Madrid, che si chiama Canillas, diciamo una delle più rinomate, e da lì insomma si può fare il salto verso qualcosa di importante. E 10 dei compagni del figlio, che gioca in porta come il nonno, non avevano i soldi per pagare una quota che è abbastanza alta e ha pagato lui. E mi sembra un bel gesto. Noi al massimo volte, agli amici dei nostri figli paghiamo la merenda. Sì, insomma, sì, poi 10, insomma, è un bel andare. Mi sembra si parli di una cifra intorno ai 6.000 euro, ovviamente. Disponibilità diverse, giustamente. Vabbè, d'accordo, però voglio dire. Comunque, no, per carità, ma non mi sentiamo. Lo prendiamo sempre ONG oppure diciamo. Ma me ne guardo tanti, bene. Ma non me ne guardo bene. È un bel. Così poi. Sì, insomma, adesso non so bene quali siano le cifre, però insomma, questo più o meno si parla di questo. E per il resto, sì, mi sembra che ha dato riposo fino a domani, quindi anche loro, anche il Real Madrid, tutto chiuso, meno gli infortunati, e da domani si ricomincia più o meno. Ma pensa a te. No, mi veniva in mente Mourinho, mi faceva venire in mente Ibrahimovic, no? E questa storia della nausea da pallone, o quantomeno del fuoco che non brucia più. Mourinho è uno che vive per quello, no? E vive di quello. Se c'è un ossessionato è Giuseppe Mourinho, magari un giorno si stuferà anche lui. Forse sì, un altro bello ossessionato è Guardiola, eh? Appunto. No, cioè, ma tu, per arrivare a quei livelli devi avere un'ossessione, poi al di là dei mal di pancia, del fatto che voglio andare via, del fatto che non è contento di questo Milan, eccetera, eccetera, eccetera. Però, insomma, sentir parlare in quel modo di Ibrahimovic mi ha colpito, ecco. Sì, anche secondo me, però cioè, mi ha colpito per il fatto, però non mi stupisce nemmeno troppo, cioè io lo vedo Ibra così, voglio dire, non so, anche Platini ha finito prestissimo, anche Cantona, no, e potevano andare avanti molto di più, e così sono personaggi particolari, anche Zidane non è che diciamo che ha smesso tardi, certo, sì, insomma, personaggi, certo, tre erano francesi, mi sta venendo, abbiamo citato tre francesi, quindi forse potremmo aprire un altro filone di discussione, però detto questo, no, il Ibra è così, sì, mi colpisce, però poi ce lo vedo, insomma, non lo so, è un personaggio un pochino diverso, decisamente fuori dalle righe per cultura, crescita, formazione, no? Ed è per quello che a noi piace, ed è per quello che a noi piace, almeno a me. Sì, ma anche è per quello che ha giocato sempre così, in questa maniera, no? Anche questo fatto di dire no, lui mai decisivo nelle partite decisive. Sì, poteva essere vero, però poi regalava delle altre cose, non lo so, no? 8 anni che vince il campionato più o meno. È per quello che lo vuole City, perché se non pigli Ibrahimovic non lo vinci, non lo vince mai. Filippo, ti ringrazio. Grazie a voi. Un abbraccio. Grazie a Filippo Maria Ricci. Non ci avevo pensato, una bella strategia da parte del City. Prendo Ibra, vinco il campionato. Evidente, no? Cioè, è ovvio che è così. Allora, cosa dobbiamo fare per vincere sto campionato? Spendiamo 100 milioni di miliardi e prendiamo 1.000 giocatori, poi magari non vinciamo? No, basta prenderne uno. Prendi Ibrahimovic, garanzia. Polizza assicurativa. Assolutamente. Telefonata dall'estero, Lorenzo da Lugano. Buongiorno. Buonasera. Buongiorno, buonasera. Ciao. Ciao. Facciamo prima. Sì, esatto, meglio. Ciao, scusa, io volevo tornare un passo indietro, scusa, mi ho sentito prima parlare del Barcellona. Sì. Io ho visto, tra l'altro, in relazione alla partita col Milan, la partita che ho visto è che mi ha comunque divertito da una parte e mi ha lasciato sgomento di come io fossi stato un giocatore del Milan sarei uscito dal campo dopo un po' e ho detto vabbè, giocate solo voi, perché una figura così non si è mai vista, sembravano 11 birilli e gli altri gli giravano intorno. Sì, però Lorenzo, però Lorenzo, aspetta un attimo. Se vai a giocare a calcio con il Barcellona, cioè lo sfida a viso aperto, a chi gioca meglio, a chi tiene più la palla, ho l'impressione che non ci sia gara, ma lo stesso Real Madrid, visto che ne stavamo parlando, nella dimostrazione, no? Ne ha beccati 5 in faccia. Io credo che il modo per affrontare il Barcellona al massimo livello in grandi competizioni sia quello che ha praticato l'Inter, no, quando ha vinto la Champions League, sia stato quello del Real Madrid di Mourinho, che memore della manita ha strappato in quel modo al Barcellona quello che poteva, cioè la Coppa del Re. Non credo che sia possibile sfidare il Barcellona a viso aperto. No, ma di questo non lo so, cioè io dico questo, il Barcellona gioca così, ha creato un modulo e ha un'idea di azienda fatta in un certo modo per cui fa crescere i propri campioni, li coltiva, li forma mentalmente. Secondo me in Italia oggi, a parte poche eccezioni, non c'è ancora questa visione di un modo diverso, di uno stile differente di giocare per cui si riesce a imporre il proprio modo di giocare, per cui noi siamo ancora, le nostre squadre comprano i grandi campioni, li strapagano affidando campioni che siano giocatori o allenatori, la stessa cosa, ammesso che Mourinho sia un campione, beh, lo è stato, voglio dire. Secondo me in questo modo saremo sempre perdenti, forse bisogna cominciare a pensare a seminare qualcosa. Sì, questo indubbiamente vale per noi, ma vale per tutti, perché il Barcellona è uno, il modello del Barcellona è uno, no, non mi sembra che ci siano altre realtà calcistiche al mondo in grado di sfidare il Barcellona con una propria filosofia, o mi sbaglio, Fabrizio? Sono d'accordo, anche perché è veramente un'eccezione. Riescono a fare questa cosa da tanti anni e hanno beccato una generazione veramente importante di giocatori tutti bravi, e su questo hanno formato la loro filosofia di gioco, perché bisogna anche dire questo, cioè non è che è una cosa astratta, è arrivata da una generazione di giocatori tutti più o meno della stessa età, tutti più o meno che giocavano assieme e che giocavano tutti bene, e quella fortuna, quella bravura nel costruire questi giocatori ha portato poi a questa filosofia, perché non è che prima giocassero così, ecco. Esatto. Senti, ma dimmi del Paris Saint-Germain di Leonardo. L'hai visto? L'ho visto varie volte e devo dire la verità, Pastore sta diventando le Roi de Paris. Senza ombra di dubbio, un giocatore straordinario. A Parigi, come nel campionato francese, è un campionato con delle difese un pochino più morbide rispetto a quelle nostre, quindi si gioca molto sulle ripartenze, si gioca molto in velocità. Pastore si diverte come un matto, perché tecnicamente li fa diventare veramente tutti pazzi. È un giocatore straordinario, è un giocatore che ha avuto un po' di conflitti secondo me dal punto di vista tattico, perché giocano con tre trequartisti sostanzialmente, e a Nenè, che è un altro giocatore che giocava prima nel Monaco, troppo vicino a lui, e quando ogni tanto Cobaret lo toglie, lui si diverte come un matto, va da tutte le parti e fa gol dappertutto. È una squadra molto comunque bravo. In costruzione. Squadra assolutamente in costruzione, credo che abbiano ancora un po' di confusione nella creazione, tant'è che avevano preso il portiere del Rennes lo scorso anno, Duché, miglior portiere della stagione, non ha mai giocato una partita perché poi hanno preso Sirigu. Quindi voglio dire, Sirigu come sta andando? Sirigu sta andando bene, ma Sirigu è un ottimo portiere, avevo dubbi su Sirigu, assolutamente. Ho invece un po' di dubbi sulla difesa del Paris Saint-Germain, che è assolutamente mediocre rispetto al resto. Adesso stanno pensando comunque, hanno altri pensieri, Beckham. Ecco, non saprei dove mettermelo Beckham, insomma, in tutta quella confusione che hanno fatto centrocampo e attacco. Metti sulla Tour Eiffel, anche no, quello fa parte di strategie di mercato di Leonardo ben presenti, no? Credo che sia una strategia proprio, fra virgolette, araba, nel senso che la Qatar Foundation ha deciso di fare diventare Parigi una capitale importante, quanto lo è Londra, quanto lo sono, quanto può essere Madrid o Barcellona come grande squadra. Vogliono creare Parigi come una squadra che anche in Champions League possa dire la sua. Ultime battute da Tempo di Sport di oggi, un sacco di ascoltatori ascoltatori che hanno chiamato, purtroppo non riusciamo a parlare con tutti. Parliamo invece con Dario Ricci, che mi farà compagnia anche più tardi in Palla Spicchi. 20:30-21 inizia il campionato e iniziamo anche noi. Ciao Dario. Ciao ciao a tutti Carlo. C'è un anticipo di cosa sta succedendo sui campi. Eh beh, siamo intorno alla metà del secondo periodo. Allora, Sassari in vantaggio su Casale 23-19, Bologna Roma sorpresa sul campo di Bologna, avanti la Virtus Roma, in questo caso 32-28, Caserta Treviso 29-24, Cantù in vantaggio di 5, 27-22 a Cremona, parità 36 pari tra Fabischius Montegranaro e Sidigas Avellino, e mentre Pesaro al quarto del secondo periodo è in vantaggio di 3, 22-19 sul campo di Biella. Poi alle 20:30, ma tanto la seguiamo insieme, come ricordato, c'è Milano-Varese, big match di giornata. Emporio Armani, Cimberio Varese. Mirko dalla provincia di Latina, buongiorno. Buonasera, dottore. Buonasera, io faccio confusione, però perdonatemi. Venerdì alle 14 con Palla Spicchi, sabato alle 17, la domenica a quest'ora non capisco più se è giorno o notte. Dica. Buonasera, io stavo ascoltando la sua trasmissione. Sì. A certo punto, quando lei parlava con Natasha Stefanenko, sì, quando l'ha chiesto come mai che è diventato interista, sì, a me è venuto in mente... In realtà le ho detto, chi te l'ha fatto fare? Ho usato queste parole. Sì, sì, sì, certo, c'ha ragione. Però a me mi è passato per mente come io sono diventato juventino. Lei di dov'è? Io sono polacco. È polacco, sì. Boniek. Con Boniek, no? Esatto. Ecco, bravo. Io pur non essere tifoso della squadra da dove è uscito Boniek, perché Boniek dalla squadra, cioè nemica, perché io ero tifoso in Polonia dell'altra squadra. Boniek giocava, mi corregga se sbaglio, ma qui andiamo a domande da trivial. Vize Vlodz. Io invece ero ai quel tempi della Motor Lublin, perché io sono del Lublino, della Polonia. Sì. Allora, poi sono diventato, saranno parecchi, quasi mezzo secolo che sono juventino. Sì. Ormai vivo da 20 anni in Italia. Sì. Io ancora sono innamorato di quella squadra, di Platini, Boniek. Ci credo, la posso capire, insomma. Lasciamo perdere il discorso dei Hazel, vari cosi. Sì, no? sì, certamente. Però volevo fare una domanda a lei proprio. Prego. Oltretutto che io non è che non mi piace, perché anche quando Ciro Ferrara è diventato allenatore della Juve, sì, ero proprio scettico, perché sì, pensavo che... E lei è scettico su Conte adesso, mi sta per dire? Appunto, perché Conte era il nostro capitano. Mm-hmm. Lei come pensa? Non è... Perché lasciamo perdere Guardiola, vari allenatori, altri cose. Le dico rapidamente, l'ho detto molte volte, insomma, Conte, i bravi allenatori sono quelli che sono supportati dalle società. In questo momento la Juventus ha una squadra e una società in costruzione. Io continuo a pensare che la Juventus avesse bisogno per questa rinascita di un uomo forte sulla panchina, di un uomo vincente già, cioè di uno che conoscesse già la strada per arrivare a determinati risultati, che avesse carisma, che avesse ascendente sui tifosi. Il nome fatelo voi, non lo so, da Mourinho a... Ovviamente nomi di fantasia, da Mourinho a Marcello Lippi a... Allenatori di questo, a Capello, allenatori di questo tipo e di questo carisma. Conte sta facendo molto bene, ma siamo soltanto agli inizi. Sta costruendo un buon gruppo, la società per il momento lo aiuta, la squadra mi pare anche, a cominciare da Del Piero, che comunque ha un ruolo fondamentale in quello spogliatoio e nei rapporti con la tifoseria. Non lo so, secondo me è ancora un po' acerbo. Poi i grandi allenatori sono quelli che hanno grandi società alle spalle, questo vale a mio parere in tutti gli sport. Il materiale a disposizione non è di primissimo livello, né italiano né tantomeno europeo. Saluto e ringrazio Jerry De Rosa invece, voce, ciao Carlo, nostra buonasera. Amica, ciao Jerry, tu sei in viaggio, il campionato senza Kobe naturalmente, come ampiamente previsto, è cominciato. Non ti ho ancora chiesto la tua posizione sulla vicenda Bryant. Lo faccio ora. Ma guarda, io vado un po' controcorrente, ma fino a un certo punto, perché poi ho sentito che anche il presidente del Colli Petrucci la pensava così. Secondo me si è montato attorno al nome di Kobe un caso per cui sembrava che con il suo arrivo tutti i problemi del basket italiano potessero essere risolti. Una grande, indubbiamente sarebbe stato un grande colpo per quanto riguarda l'immagine, ma l'ho sempre vissuta più o meno come l'organizzazione di una bellissima esibizione. Ci sono il primo a voler vedere Kobe dal vivo, che ho fatto, come sai, abbiamo fatto migliaia di chilometri pur di vederlo alle Olimpiadi, sì, o certo, eccetera. Però poi il campionato secondo me è un'altra cosa, e soprattutto sarebbe stato un gigantesco tappeto sotto cui nascondere un po' di problemi. Che anche per 10 partite non ti sarebbe piaciuto, anche per un pezzo vero di campionato? Io l'avrei visto per una o per 10, mi sarebbe piaciuto molto, molto, vorrei essere chiaro, però non ho capito perché avrebbe dovuto risolvere i problemi del basket italiano, ecco, tutto qua. Mi sarebbe piaciuto molto vederlo giocare con qualsiasi maglia, però poi io sono un po' all'antica e al campionato con la partita che vale 2 punti e poi la partita che gioca a novembre, magari te la ricordi ad aprile perché ti è costata qualcosa, insomma per me contano di più. Poi è vero, sì, che Kobe è arrivato a Milano e a Roma e c'era una folla e sembrava di vedere i Beatles e i vecchi tempi, questo sono il primo a dirlo. Dal punto di vista puramente tecnico mi lasciava qualche dubbio, ecco, però voglio dire, ben venga una squadra che fa delle esibizioni in giro per l'Italia con tutti i migliori dell'NBA in periodo di lockout, ecco. Certo. Senti, ne approfittiamo, visto che il tempo sta scadendo, per prendere un pubblico appuntamento per un venerdì di questi in Pallaspicchi. Molto volentieri, sì. Fantastico. Posso solo da te. Ti aspetto appena puoi un venerdì di Pallaspicchi. Cambiato qualcosa? Ma c'è sempre Roma avanti di 2 a Bologna, Braccetto, Montegranaro, Avellino e Cantù che allunga decisamente più 11 a Cremona. Fabrizio Ferrari, grazie, torna presto a trovarci anche tu. Grazie mille, quando sei libero dagli impegni con le tue ex fidanzate e dai viaggi in Francia. A Tempo di Sport continua su Facebook e Twitter, mi segnala Giorgio Di Luca dalla redazione, che ringrazio. Io vi rimando questo messaggio, grazie anche a Filippo Aureggi in regia. A Tempo di Sport domani dalle 14 con Gigi Garanzini, venerdì Pallaspicchi, ma ci sentiamo più tardi, dalle 8:30 alle 9 con Dario Ricci e Pallaspicchi.